Punkt als Konzil von Trient befassen, taucht unwillkürlich der Name Machiavelli auf. Wir hören heute Nachmittag, dass die Redaktion über die Verurteilung Machiavellis auf dem Konzil von Trient. Ich will gleich sagen, dass ich diesen Ausdruck Verurteilung noch nicht akzeptiere. Danke. Un esule fiorentino repubblicano. Bene, scusi, domando perdono in ginocchio, ma uno dei giovani di lingua tedesca mi aveva incombenzato di pregare se fosse possibile dare lo schema brevissimo, almeno i tre o due punti in cui solo per me riescano a vedere la località. Allora, il riassunto globale è questo. L'ultimo grande dibattito culturale italiano che si sviluppa negli ultimi 20 anni del Cinquecento e nei primi 20 anni del Seicento è il dibattito sulla ragion di Stato. La cultura tedesca ha dato un testo fondamentale, il libro di Friedrich Magnecke, sull'idea della ragion di Stato nella storia moderna. Libro magistrale, anche se purtroppo la conoscenza di fonti italiane non ancora accessibili e senza quel lavoro di scavo profondo, analitico, che è indispensabile per ogni tentativo di sintesi, allora, 1924, quando il libro di Magnecke fu pubblicato, mancava ancora. Il dibattito sulla ragion di Stato nasce dal tentativo impossibile, ma allora non si sapeva che era impossibile, di risolvere il problema del rapporto fra morale e politica. La conciliazione fra la istanza del potere e la istanza della moralità, del rispetto della legge morale, che allora ovviamente non può essere che la morale rivelata, l'etica positiva del cristianesimo. Questo dibattito nasce con un testo del 1583 De Regia Sapientia, pubblicato da Giovanni Botero a Milano sotto la grande ala del cardinale Carlo Borromeo. In questo libro Botero dice: io sento continuamente nominare Machiavelli e Tacito. Strano accoppiamento, uno storico classico romano, uno storico, badate, scoperto di recente, l'edizione di metà degli annali, Filippo Beroaldo, 1517, è uno dei più tardi dei grandi testi dell'antichità classica che sia tornato in circolazione. Diceva dunque, sento nominare Tacito e Machiavelli. Perché? Perché si era verificato il fenomeno che noi chiamiamo il tacitismo, che non è un interesse filologico, erudito, di storia romana per Tacito, ma è un espediente, un tentativo di contrabbandare, di far passare il discorso sulla politica realistica, cioè il discorso di Machiavelli, la politica come categoria separata, l'arte del governo, il potere come tale, quando era già intervenuta una dura e totale condanna di Machiavelli. Quando Machiavelli non può più essere stampato, non può più essere letto, quando addirittura il polemista della Chiesa Cattolica, il gesuita Possevino, per confutare Machiavelli, deve leggere le citazioni di Machiavelli nel libro di Chantilly, cioè nel libro di un calvinista, perché direttamente in Italia non gli è più concesso di leggere Machiavelli. Una condanna assoluta che ha portato non solo alla interruzione delle edizioni, delle stampe di Machiavelli, che fino al 1555 si susseguono anno per anno con straordinaria frequenza, ma alla chiusura di ogni discorso che affronti il problema della politica come un problema scientifico, cioè così come lo aveva affrontato Machiavelli. La politica isolata, separata da tutto il resto delle conoscenze umane, è studiata come tale. Che cos'è il potere? Come si conquista il potere? Come si difende il potere? Questo discorso viene chiuso. E allora, per un certo periodo, gli italiani, sempre astuti, sempre inventivi, hanno trovato il modo di parlare di Tacito. Chi è Tacito? Non a caso Machiavelli aveva commentato Livio nei discorsi, perché Livio è uno storico repubblicano e Machiavelli ha in mente la sua Repubblica Fiorentina, i problemi delle repubbliche, ed è uno storico, possiamo usare la parola bonario, senza malizia, addirittura uno storico di miti, di leggende della romanità. Ma il realismo della politica richiede un tema, un argomento che riguardi il Principato, cioè la nuova forma politica che si è instaurata in Italia e che si adegua alla forma politica dominante in Europa, che è il regime delle grandi monarchie nazionali. E allora qual è lo storico antico che si è occupato del Principato? Ovviamente è Tacito, lo storico del primo secolo dell'impero, lo storico che ha analizzato con grande penetrazione psicologica non soltanto la vicenda esterna del potere, lo snodarsi degli avvenimenti collegati al Principato, ma tutto il retroscena psicologico, la tortuosità, gli aspetti subdoli, gli aspetti insidiosi della conquista e della difesa del potere. Lo storico del cinismo totale, della brutalità del potere. E il commento a Tacito è una ricerca ancora in buona parte da fare. Incomincia come tutti i commenti di autori classici, come commento erudito. Si discute il testo di Tacito, le varianti e le integrazioni filologiche del testo di Tacito, poi si discutono le istituzioni romane che dal testo di Tacito sono messe in luce, monete, strutture militari, strutture politiche, strutture giuridiche e via di questo passo. Si commenta questo autore come si erano commentati tutti gli altri autori latini. Ma piano piano, in fondo a queste grandi pagine del testo latino, si vedono comparire delle strane note. Note che dicono, ecco, Tiberio in questo caso si è comportato esattamente come Filippo II. Ferdinando il Cattolico, quando ha firmato questo patto, non aveva di mira altro scopo che quello di Nerone quando, e piano piano, questo tipo di commento dilaga, cresce, mette da parte tutto l'aspetto erudito del commento classico e si arriva ai casi estremi. 1605-1610, il grande commentario a Tacito di Traiano Boccalini, pubblicato solo in parte e molto male nel 600, inedito in centinaia di manoscritti che hanno inondato tutta l'Europa, in cui il testo di Tacito viene ridotto a due o tre o quattro parole, una brevissima frase, e poi 10, 20, 30 pagine di commento politico contemporaneo, come i romani avevano fatto anche adesso. Si vede cioè che il comportamento politico è costante, eterno. L'uomo non cambia. L'ambizione, l'avidità di potere, la sopraffazione del più debole, il non arrestarsi davanti a nessuna cattiva azione pur di conseguire il potere è un elemento costante della storia dell'uomo. E allora che cosa accade? Mettiamoci dal punto di vista della Chiesa Cattolica Romana. Che cosa serve avere proibito, cancellato dalla cultura europea il testo di Machiavelli se con la scusa di Tacito si fanno gli stessi discorsi? Se quello che poteva sembrare un momento limitato al sorgere dei principati, alla politica fiorentina, a una situazione di piccoli tiranni che cercano di trasformare in dominio permanente quel potere che hanno rubato, arraffato momentaneamente, se questa che potrebbe essere ridotta in sostanza a un'esperienza storica limitata geograficamente e cronologicamente diventa invece un problema eterno, un problema che si ripete durante l'impero romano e quindi si ripete sempre, perché volendo non c'è storico medievale, greco, che non possa essere letto, interpretato in questa chiave politica, con questo significato particolare. Il dibattito sulla ragione di Stato nasce dal fatto che la muraglia che era stata costruita per isolare, per chiudere il pensiero di Machiavelli, si è rivelata inutile, perché il pensiero di Machiavelli occupa tutta l'esperienza umana, tutta la sfera della politica è Machiavelli, al di là delle raccomandazioni del regimine principum di San Tommaso o della Repubblica Platonica, gli uomini veri, gli uomini di carne ed ossa, quando fanno politica si comportano come ha visto per la prima volta Machiavelli. È come se un condannato a morte, dopo essere stato decapitato e bruciato, improvvisamente ritorna vivo. Appare dappertutto. Machiavelli è una presenza insopprimibile e la Controriforma, che aveva creduto con l'indice tridentino, con l'indice di Trento, di aver cancellato Machiavelli dalla storia, trova 100 Machiavelli presenti dovunque la storia sia stata vissuta dagli uomini. E allora diventa di straordinario interesse vedere come si arriva alla condanna di Machiavelli. Una condanna molto curiosa, che ha una sua storia culturalmente affascinante e che vorrebbe essere per l'appunto l'argomento della conversazione di oggi. Devo premettere una sommaria periodizzazione o divisione in tranche, ovvero in scaglioni, della storia della repressione romana nei confronti delle opere culturali. Diciamo che fino al 1542 l'Italia vive il momento della cosiddetta riforma cattolica, in cui tutte le soluzioni sono ancora possibili, in cui forze diverse, conservatrici e rinnovatrici si scontrano, le forze rinnovatrici sono sempre più deboli, sempre più isolate, ma tutte le soluzioni sono possibili. Il momento reale della sconfitta, il punto da cui non si ritorna, è Ratisbona, Renzi. Il colloquio in cui Gaspare Contarini non riesce a trovare un punto di incontro con il luteranismo. Lì si stabilisce una incomunicabilità che decide la frattura, la separazione senza speranza. Ma il 1542 è un anno simbolico. Nel 1542 Bernardino Ochino lascia l'Italia, è il generale dei Cappuccini, il più applaudito predicatore italiano. 15.000 persone dovunque si presentasse su una piazza a predicare. 1542 la fuga del priore degli Agostiniani di Lucca, Pietro Martire Vermigli, forse il maggiore teologo italiano del momento. 1542 la morte del cardinale Gasparo Contarini, il più intenso e fervido uomo della Riforma cattolica, l'uomo che aveva veramente sperato di utilizzare la rottura in qualche momento brutale, violenta di Lutero come rinnovamento globale del cristianesimo dall'interno, non dall'esterno. Una restaurazione dei grandi valori della Chiesa cattolica. E finalmente, 1542, la costituzione della Santa e Universale Inquisizione. Questo significa la fine della discussione e l'inizio della repressione. È un cambiamento di condotta radicale. È finito l'età in cui si cerca l'accordo, l'età in cui si dibatte, e incomincia l'età in cui chi non è d'accordo viene cancellato, viene represso, viene punito, viene condannato. Quasi simbolico è che a Bologna Bernardino Chino, chiamato a presentarsi alla Curia di Roma, arriva fino a Bologna, ma si avvicina al letto di morte dove Contarini sta spirando e da questo cardinale riceve il consiglio: non andare, non andare. Sarai costretto o a recitare, dice Cristo in maschera, parola terribile, a fingere un cristianesimo che non senti, oppure a morire inutilmente. Inutilmente perché il tuo messaggio non sarà più raccolto. E Ochino non va a Roma, ma passa le Alpi e va nel mondo germanico. Questa dunque è una prima data. Da questo momento incomincia la repressione sistematica dell'eresia in Italia, che si può considerare finita intorno al 1570. Qualcuno degli eretici fugge anche dopo. Alberico Gentili nel 72, Francesco Pucci nel 71, addirittura Fausto Sozzini nel 75. Ma sono dei cripto-eretici, degli eretici prudenti, degli eretici aristocratici, che vivono protetti e che fuggono al di là delle Alpi solo quando la loro posizione diventa troppo pericolosa. Sono tutto sommato però episodi ritardati e marginali. Con gli anni 70 la repressione dell'eresia teologica in Italia è finita. Incomincia da parte dell'Inquisizione un allargamento. Dobbiamo vedere un fenomeno estremamente suggestivo, a mio avviso. L'Inquisizione è un organo di tutela della ortodossia ecclesiastica, di difesa del dogma, di difesa della cattolicità, ma diventa anche una burocrazia. In tutti i centri si costituisce un tribunale con dei funzionari, con delle aspettative di carriera, e come tutte le burocrazie la finalità fondamentale è quella di durare in eterno. Anche se il compito, la finalità istituzionale per cui quella burocrazia fu costituita è stato esaurito, la burocrazia deve inventare nuovi compiti per durare. E allora, visto che eretici non ci sono più, si incomincia a punire gli scrittori irriverenti, quelli che scherzano sui vizi del clero, sul costume. Di nuovo una data estremamente simbolica: nel 1570 viene impiccato Niccolò Franco, uno degli scrittori maledici, degli scrittori satirici più sboccati, più triviali, un amico di Pietro Aretino, che si era permesso di scrivere delle satire contro la Curia Romana. E non a caso è il decennio in cui si ha a Firenze quella straordinaria espurgazione del Boccaccio. Il Decamerone viene ripulito da un'apposita commissione, perché a Firenze non si vuole ammettere che un grande classico, una delle grandi glorie del toscano letterario sia cancellato, sia messo a parte, ma nello stesso tempo tutti avete letto, è vero, il Boccaccio, ci sono cose che non sono belle, è vero, ci sono cose che... E l'espurgazione del Boccaccio è un sintomo incredibile di come questa operazione viene condotta. Nessuno pensa a togliere dal Decamerone le storie in cui, diciamo, entra il sesso, in cui ci sono, con quella sanità, con quella solare cordialità che è tipica di un borghese normale come Boccaccio, ma semplicemente tutte le volte che si parla di parroci o di monache si sostituisce al parroco il notaio e alla monaca la comare. Immaginate la storia di Masetto da Lamporecchio, ortolano delle monache, che viveva in una comunità di comari. Sociologicamente la cosa diventa incomprensibile. Questa comunità di signore che vivevano insieme e avevano un ortolano che così provvedeva collegialmente. Questo, ma vi cito un altro esempio incredibile. Nel 1552 Anton Francesco Doni pubblica Il mondo savio e pazzo, un libro di stravaganze letterarie come erano caratteristiche di questo scrittore ex frate, sradicato, bizzarro, in cui viene descritta una repubblica comunistica radicale di assoluto materialismo. Mai nella storia dell'uomo si giunse a una visione così biologica, così degradata della comunità umana. Immaginate che a un certo punto chi domanda se si poteva almeno dipingere, dice certo, chiunque purché avesse fatto il suo lavoro quotidiano poteva dipingere, anzi poteva dipingere tutti i muri della città. Dice, e quando tutti sono dipinti, dice, è molto semplice, si cancella tutto e si ricomincia da capo. Quindi l'idea di cancellare, non so, gli affreschi di Leonardo o di Raffaello per ricominciare da capo, cioè riduce l'arte a un puro capriccio, a un passatempo della domenica. Ebbene, in questa Repubblica anche la comunità non è solo economica ma anche sessuale. Alla domanda come si nasce, cioè come vengono al mondo i figli, la risposta è: c'era una strada o due di donne. Chi voleva donne andava lì e trovava le donne. Quando Fra Girolamo Giovannini da Capugnano, grande espurgatore di testi a Venezia durante la Controriforma, sono molte, molte decine i libri da lui corretti e ripuliti. L'ultima edizione integrale è del 1568, una data molto tarda rispetto all'indice tridentale. Le edizioni successive di questa opera, che ebbe grandissimo successo, portano l'impronta di questo frate cappuccino, francescano, che fosse conventuale. Allora, alla domanda come si nasce, la risposta diventa: c'era il santo matrimonio, che è una risposta assolutamente assurda rispetto al materialismo radicale di tutta questa Repubblica, ma soddisfa le istanze esteriori della Controriforma. Cancellare ciò che apparentemente di prima istanza può ferire la sensibilità nuova che si è creata. Adesso torniamo, perché sennò ci dilunghiamo troppo. Il seguito di questa cronologia è un seguito drammatico, perché dopo il decennio della punizione degli scrittori blasfemi, degli scrittori che insultano la curia e il clero, si passa alla punizione dei filosofi. Il decennio terribile 1590-1600, che comincia con la condanna di Campanella, con la condanna di Patrizi, con la condanna di Telesio, e finisce col 17 febbraio 1600 col rogo di Giordano Bruno in campo di fine. E quando anche i filosofi sono cancellati, rimangono gli ultimi, quelli che erano ai margini, quelli che sembravano non avere nessun rapporto con la teologia, gli scienziati. è nel marzo 1616, questa è la data decisiva, no? Il processo del 1632, San Roberto Bellarmino chiama Galileo Galilei e gli intima il preceptum, cioè un ordine formale, ingiuntivo, di non parlare mai più del sistema copernicano. E con questo si è coperta tutta l'area. Vedete che dalla eresia teologica alla maldicenza contro le autorità ecclesiastiche, alla letteratura troppo libera, alla filosofia, quando si è arrivati alla scienza è finito. Non c'è più niente da proibire, è proibito tutto. E allora la condanna di Machiavelli assume un significato estremamente indicativo. Quali sono anche qui le date? Quando Machiavelli muore, dimenticato, oscuro, nel 1627, non ha pubblicato quasi nulla. Soltanto dei suoi testi importanti, uno, il più marginale, il meno evidente, L'arte della guerra. Altro, è uscita la Mandragola in una brutta e piccola edizione per i comici che la devono rappresentare, e il Decennale, che è una brutta e breve poesia. Machiavelli quindi è praticamente uno sconosciuto, o semmai la sua immagine culturale è quella di un tecnico sfortunato di arte militare, che non era mai riuscito, come dicevano i contemporanei, a mettere in fila 50 soldati perché non era capace. Dove un sergente riusciva a schierarlo, in un momento lui gridava, sudava, ma non era capace. Scriveva i trattati. Dopo la sua morte, fra il 530 e il 531, escono a Roma tutte le sue opere maggiori, ma soprattutto le storie fiorentine, i discorsi sulla Prima e il Principe. E si è fatto un gran parlare, senza capire quali erano le usanze reali di quella società, sul fatto che esista una bolla, decreto di Papa Clemente VII, che saluta con simpatia questa pubblicazione, che si rallegra perché finalmente questi scritti vengano in luce, come se il Papa li avesse letti, o qualcuno li avesse letti dal punto di vista teologico-religioso, e avesse in questo modo dato un'approvazione. Cioè, questo significa non sapere che per pubblicare un libro ci voleva un permesso, che ci voleva un privilegio per evitare che altri tipografi lo stampassero immediatamente, togliendo quel poco di vantaggio economico, di utile, che si poteva ricavare da un'edizione, e che quindi si richiedeva questo documento dell'autorità per garantire dal punto di vista commerciale, economico, il successo di una edizione. Nessun tipo di approvazione. Anzi, questa pubblicazione delle opere, delle grandi opere inedite, postume di Machiavelli, andava contro tutto un fitto tessuto di ostilità, di antipatie, che erano nate contro Machiavelli nel suo ambiente, a Firenze. Machiavelli era un uomo odiato, o perlomeno non visto con simpatia. Basta elencare alcuni degli aspetti. Quel grande aristocratico superbo, ma anche piagnone savonaroliano, che alla mano Salviati, sentendo nominare Machiavelli, risponde: io non ho mai avuto niente a che fare con questo ribaldo. Ribaldo vuol dire delinquente, insomma, uomo non raccomandabile. Machiavelli è già morto, il vescovo di Pavia, Giambattista De Rossi, è nella camera di Clemente VII che sta leggendo i discorsi, già stampati. Altra prova che non li aveva letti prima. E quando arriva al capitolo 2.10, in cui Machiavelli dice: non è utile costruire fortezze, non serve a nulla, se i popoli sono fedeli è inutile tenerli soggetti con le fortezze, e se sono infedeli c'è il pericolo che occupino loro le fortezze e se ne valgano per non essere più sottomessi. E il Papa dice, esplose in una grandissima risa, dice il vescovo di Pavia, e dice: questo Ribaldo non vorrebbe che io facessi le fortezze a Firenze, ma io le farò. Stava pianificando la fortezza da basso e il castello, i due nodi che assoggettarono definitivamente la Firenze repubblicana al dominio dei Medici. Ebbene, di nuovo questa parola. All'inizio della vita politica di Machiavelli e subito dopo la sua morte, questa parola Ribaldo, criminale, delinquente, che ritorna come un giudizio di persone che non lo giudicavano moralmente, lo giudicavano come un politico troppo disinvolto. Due volte a Firenze avviene una denuncia contro di lui come bastardo, come figlio illegittimo, per cercare di fargli perdere il posto, di farlo licenziare dalla cancelleria dove aveva questo modesto stipendio. Ora, Machiavelli è figlio di un matrimonio legittimo, ma suo padre era così poco legittimo che era figlio di uno scapolo ed era stato legittimato in punto di morte. Quindi si voleva addirittura far pesare su di lui, per odio contro di lui, questo difetto legittimato di nascita, segno che non godeva simpatia. Ma abbiamo subito dopo la sua morte una lettera del Busini, un esule repubblicano scontroso, amareggiato dalla caduta della Repubblica, che cerca modesto lavoro a Roma, e scrivendo a Firenze al suo corrispondente, lo storico Benedetto Varchi, dice: Machiavelli era odiato da tutti. Perché? I buoni lo odiavano perché era cattivo, i ricchi perché insegnava ai Medici a togliere loro tutta la roba, i poveri perché insegnava ai Medici a dominarli, e i cattivi lo odiavano anche loro perché era più cattivo e più abile di loro. Questo è una deformazione esasperata, ma è proprio nel 1549, purtroppo questo documento non lo abbiamo, e non lo abbiamo perché 10 anni dopo tutto l'archivio dell'Inquisizione a Roma, in via Ripetta, fu bruciato in una insurrezione popolare, non esistono carte dell'Inquisizione anteriori. Scrive così: qui a Roma sono state vietate e proibite a vendersi tutte le opere del nostro Machiavello, e vogliono fare una scomunica a chi le tiene in casa. Ma sino a qui, cioè già fin d'ora, nessun libraio ne può più vendere sotto bravi pene. Il Dio aiuti in Boccaccio, Dante e Morgante e Burchiello. È una specie di pantheon della letteratura fiorentina. Dice: se cominciamo così, dove ci si ferma? Anche Dante ha parlato male della Curia romana. Morgante, certo, non è un autore sacro. Se incominciamo a punire i letterati, non si sa più dove si va a finire. 1549, la lettera è senza data, ma attraverso una serie di indizi che risparmio, ho potuto datarla addirittura al mese. Ci sono riferimenti interni in altri brani che permettono la datazione. E allora si tratta di stabilire che cosa è avvenuto fra una pubblicazione neutrale, indifferente, con un breve papale di approvazione generica, 1531, e una condanna così radicale come quella del 1549. Qui abbiamo tre testi fondamentali, che finora sono stati elencati come i testi di una bibliografia, separati e in ordine di data. L'Apologia a Carlo V del cardinale Reginald Pole, il cardinale d'Inghilterra, scritta nel 1539, anche se fu poi pubblicata soltanto a metà del Settecento, quindi un'opera che non ebbe influenza diretta culturale, costituisce soltanto una data precisa della presa di coscienza della pericolosità di Machiavelli. Un'opera del vescovo portoghese Girolamo Osorio, il De Nobilitate Cristiana, pubblicato a Lisbona nel 1542, E finalmente il De Libris a Christiano Detestandis, i libri che il cristiano deve detestare, del domenicano e poi vescovo Ambrogio Paterino Politi, il Magister Paterinus delle dispute teologiche cinquecentesche, che porta la data, ma come vedremo è una data falsa, 1552. Quindi 39, 42, 52. Se questi tre episodi, e se il tempo ci sarà, possiamo anche ricostruirli molto rapidamente, fossero episodi isolati, potremmo avere una immagine di una progressiva presa di coscienza europea. Un inglese, un portoghese, un italiano, del pericolo dal punto di vista religioso che era contenuto negli scritti di Maria. Invece, la ricerca che ho fatto con grande interesse perché è molto suggestiva, mi ha mostrato che si tratta di un'unica persona e di un'unica azione. C'è un uomo solo che ha voluto la condanna di Machiavelli e che l'ha ottenuta. Ed era il più aperto, il più generoso, il più lontano dalla repressione fisica, e cioè il cardinale, un uomo delicato, fragile, era uno degli ultimi rampolli della Rosa Bianca, la casa di York sconfitta, secondogenito, di costituzione fragile, nato nell'anno 1500 e destinato fin dall'origine alla carriera ecclesiastica. Studi in convento prima, non come frate, ma come scuola conventuale, con i certosini a Sheen, Oxford, e poi 17enne viene mandato a studiare, a completare la formazione a Padova. Arriva a Padova con un modesto seguito di 200 persone. Era un grande cugino del re. A Padova studia, non ha voglia di tornare in Inghilterra, in fondo la vita culturale italiana allora era certo superiore a quella inglese, e soltanto a 27 anni rientra in Inghilterra e trova una situazione tragica. La richiesta formale, la prima richiesta del divorzio di Enrico VIII da Caterina d'Aragona, il movente primario dello scisma inglese, è del 1528, ma è chiaro che negli ambienti ristretti, vicini al sovrano, già se ne parlava da mesi. Questo giovane principe, che però non ha ancora nessuna carica, ha qualche modesto beneficio ecclesiastico soltanto, gli impone di recarsi a visitare nel suo palazzo di Westminster il primo ministro, il gran cancelliere d'Inghilterra, che è il cardinale Wolsey. Del suo incontro col cardinale non ci ha lasciato memoria, ma nell'anticamera del cardinale incontra un personaggio strano, oscuro, plebeo, che sta però salendo in luce con una carriera rapidissima. Era figlio di un birraio di cattiva vita, aveva portato la lancia a un fante francese alla battaglia del Garigliano, era stato raccolto per la strada a Firenze mentre chiedeva l'elemosina da un banchiere Frescobaldi, e educato, cresciuto in casa di questo banchiere, aveva acquisito una notevole perizia nel maneggio del denaro, nella tecnica bancaria. Ritornando in Inghilterra in un ambiente ancora ispirato alla vecchia feudalità, rapace ma corretta, giuridicamente legata a valori di correttezza, di devozione rispettosa per l'autorità, quest'uomo introduce i metodi italiani. È lo strumento fondamentale per la distruzione dei conventi inglesi, per quell'immane saccheggio che negli anni dello scisma fa avocare alla corona somme smisurate possedute dai conventi, tesori. Io leggevo recentemente una descrizione della tomba di San Tommaso Becket a Canterbury, in cui due casse di anelli d'oro che decoravano il sepolcro non potevano essere spostate da 8 uomini per essere portate nel tesoro regio. Quest'uomo è Thomas Cromwell, un cinico, brutale, un uomo capace di tutto. E in questa anticamera si sviluppa un colloquio delizioso. Innanzitutto si discute un problema fondamentale per la eticità di tutti i tempi. Quali sono i poteri del re di fronte alla morale politica? Paul è un ingenuo, è un semplice, e dice: la morale è stabilita da Dio e il re deve farla rispettare. No, risponde Wolsey, la morale la stabilisce il re. Se il re desidera qualche cosa che è al di là del confine morale, è molto semplice. Ricordate, c'è una frase bellissima di Machiavelli: il politico, il principe, deve sapere entrare nel male necessitato. Cioè, sa benissimo qual è la frontiera del bene e del male. Ma se la necessità, quale necessità? Non c'è altro che la necessità politica. La necessità di conservare il potere glielo impone, il re, il principe, deve avere il coraggio di attraversare questa frontiera, di vincere lo scrupolo e di entrare nel territorio del male. La tesi di Machiavelli è che la politica è più forte della morale, ma non cancella la frontiera della morale. Per Cromwell, invece, la frontiera della morale è stabilita dal re. È come se fosse una corda distesa su un pavimento. Se io devo prendere un oggetto che è al di là di questa corda, sollevo la corda e la porto al di là dell'oggetto. I confini della morale li stabilisce il potere politico. Machiavelli non aveva mai detto nulla di tutto questo. Alla domanda che cosa deve fare il consigliere, Paul risponde: il consigliere del sovrano deve guidarlo verso il bene. E Wolsey risponde: ma no, il consigliere deve indovinare i desideri del re, qualunque essi siano, e deve realizzarli, senza neppure aspettare che il re glielo dica, perché qualche volta il re non osa dirlo. Non sta bene che il re dica di volere delle cose illecite, ma il consigliere deve capirlo e deve procurare. In sostanza, Paul, uomo religioso, ricava da questo colloquio un'impressione terrificante. Si accorge che l'Inghilterra sta precipitando in un abisso di perfidia, di cinismo, da cui egli non può che rifuggire. La chiusura del colloquio è che Cromwell gli dice: se queste cose non le hai capite bene, io ho un libro, un bellissimo libro, che queste cose le spiega, e se vuoi te lo posso imprestare. Paul se ne va, questo libro non lo riceve, e c'è naturalmente una discussione tra gli storici su quale mai fosse questo libro. Qualcuno ha persino sostenuto che fosse Il Cortigiano del Castiglione, perché era stato stampato fin dal 24 ed era quindi un libro che Cromwell poteva avere materiale. Ma nel Cortigiano del Castiglione si parla di bontà, di onestà, di cavalleria, di correttezza. È impossibile. Paul non ebbe dubbi più tardi nell'identificare questo libro col Principe di Machiavelli. Si può dire che Il Principe non era ancora pubblicato, ma questa obiezione può essere superata in due modi almeno. Primo, parecchie copie manoscritte del Principe erano diffuse in Inghilterra, due sono state trovate ancora recentemente. Inoltre, come sanno gli specialisti, Il Principe era stato volgarmente copiato, tradotto in latino, da Agostino Nifo, in un libro intitolato De legnandi imperizia, che è una traduzione letterale del Principe, solo scompaginato, rimescolato, per cui in questa forma le idee di Machiavelli, per giunta facilitate dalla versione latina, cioè all'esperanto dell'Europa del 500, erano ormai accessibili. Quando poi, ritornato in Italia, conosce Il Principe, si rende conto che questo è il libro che Cromwell gli aveva proposto, e addirittura identifica la corruzione, il delirio di potere, la ribellione da Roma in cui l'Inghilterra sta precipitando come una conseguenza di questo libro peccaminoso, di questo libro che cancella tutti gli antichi valori e costituisce il potere come regola del governo delle società umane, che era invece sempre stato quello della etica positiva del cristianesimo. Da allora Paul dedica la sua vita, in mezzo alle infinite cose che ha fatto naturalmente, a questa lotta contro il principe, ma in una maniera estremamente delicata e raffinata da quel grande signore, da quell'uomo aristocratico che egli era. Mai egli dice proibire il principe, bruciare gli esemplari. No, bisogna educare le persone a scoprire quanto questo libro sia pericoloso. Fra tutte le accuse, egli arriva a scrivere che il principe è stato scritto dal dito di Satana, il demonio, con la sua unghia, ha scritto il principe. Ma basta avvisare le persone per bene, perché stiano in guardia, perché non si facciano corrompere. L'accusa più grave di tutte ci fa sorridere. Il principe insegna ai figli dei principi a mentire. La cosa che un cavaliere, un uomo educato secondo gli ideali della cavalleria feudale, non farebbe mai. Cioè addirittura sembra un libro contrario alle buone maniere, un anti-galateo. È la interpretazione di Paul. Ma adesso il libro del 1542 di Girolamo Osorio, che esce in Portogallo, viene scritto nel 1536 a Bologna e viene indirizzato a Paul. Viene indirizzato a Paul. Cioè è scritto per Paul. Addirittura Roger Usher, il grande educatore inglese del tempo, scrive a Paul questo libro. Adesso non vorrei perdere tempo, già. Questo libro scrive quello che tu pensi e dà voce alle tue idee. Cioè come se Osorio, che è un giovane ecclesiastico che si prepara a far carriera, quasi per compiacere il cardinale d'Inghilterra, abbia messo un capitolo contro Machiavelli. È un capitolo molto curioso, perché Machiavelli aveva scritto sempre nei discorsi che l'antichità classica, soprattutto i romani, educavano la gioventù al coraggio, al sacco. Li facevano assistere ai sacrifici cruenti, mettevano il coltello nella gola dei buoni, delle pecore, sull'altare, e i giovani vedevano il sangue, si abituavano, insomma, alla durezza. E invece adesso i cristiani queste cose non le vogliono più, sono tutti riti delicati e gentili, e quindi la gioventù si è snervata. E Paul e Osorio risponde come? Quelli erano degli energumeni, delle bestiacce pelose, vero? Dei guerrieri, dei gladiatori. Ma il cristianesimo ha dato questo coraggio alle vergini, alle fanciulle che si sono fatte sbranare dai leoni, alle martiri, ai giovinetti. Non hanno avuto bisogno di aver visto questi esempi, perché hanno dato la vita per il Cristo. E questo comunque è una polemica che di per sé può avere tante interpretazioni, ma è molto importante vedere che fu scritta per compiacere. Ma il caso più clamoroso è quello di Ambrogio Caterino Poligli, una figura molto nota, è vero, giurista in gioventù, diventato domenicano a 30 anni e quindi con una conversione tardiva e quindi particolarmente intensiva e aggressiva. Grosso teologo, polemista contro tutti, scrive un libro contro Lutero e un libro contro Savonarola, è un libro naturalmente contro il beneficio di Cristo, insomma, scrive contro tutti i nemici di una cattolicità vista in maniera piuttosto restrittiva e ortodossa. Adesso però a Trento Paul legge il discorso di apertura della sessione E vedi caso, il suo segretario è Ambrogio Paterino Polito. E il parere in cui si denuncia la pericolosità di Machiavelli è preparato per la sessione che riguarda un unico libro molto più importante del Principe, il problema della traduzione della Bibbia in volgare. E difatti in questo De Libris a Christiano de Testamnis, che è raccolto nell'edizione del 1552, ma è quasi fatto in forma di fogli volanti raccolti globalmente, dopo essere stati stampati chissà dove e chissà come, come una raccolta di estratti, di tirage à part, potremmo dire, di lavori precedenti, questo libro affronta il problema che era centrale a Trento, si deve o non si deve tradurre? E allora la soluzione, si autorizzino le vecchie traduzioni, però si metta una prefazione che avvisi circa i punti controversi, e non basta, ma di fianco sul margine dei punti che hanno dato luogo alle grandi dispute religiose, si metta una nota in senso cattolico, cioè è una guida alla lettura non più libera. Il biblicismo è troppo pericoloso, si deve leggere la Bibbia ma dopo essere stati guidati e incanalati da una interpretazione ortodossa. E questo è un discorso perfettamente pertinente al problema tridentino. Ma non si ferma il nostro Politi e dice: ma e perché dobbiamo permettere tutti i classici latini pieni di oscenità, il libro degli amori di Ovidio, le satire di Giovenale, piene di cose indecorose che vanno fra le mani dei giovani? Niente, bisogna proibire, questo problema è proibire i classici latini. E a questo punto improvvisamente tutto questo sparisce e metà, la seconda metà di questo discorso riguarda soltanto più Machiavelli, il che ovviamente è abbastanza sorprendente, di libri pericolosi ce n'erano tanti, non era certo Machiavelli il nemico più insidioso in quel momento, ci saremmo aspettati che volesse proibire Lutero o Melantone o che so io l'Istituto Cristiano di Calvino, forse erano libri più inquietanti dal punto di vista delle opinioni, invece no, una lunghissima analitica severissima denuncia di Machiavelli, che è chiaramente un testo preparato per compiacere, per accompagnare l'atteggiamento del suo superiore, l'atteggiamento di Paul, che su questo punto si batteva dovunque e comunque. La novità, l'aspetto, ahimè, lo dico fra virgolette, italiano di questo testo, è che non più si segue l'atteggiamento di Paul. Machiavelli è uno scrittore empio, tutti lo sappiano, tutti se ne guardi. Politi dice: Machiavelli è uno scrittore empio, e quindi bruciamolo, e quindi cancelliamolo dalla storia. Machiavelli deve essere soppresso. Un documento pochissimo noto che ho trovato quasi per caso, sono molto lieto. Nel Calendar of State Papers, le lettere dell'epoca di Enrico VIII, una lettera scritta da un analfabeta, prigioniero della Torre di Londra, un mercante inglese che, siccome nei suoi viaggi era stato in Italia, al ritorno viene visto con sospetto e a buon conto messo in prigione. E poi si vedrà. E questo si accorge che l'accusa più grave che gli fanno è di essere stato a Roma e di avere partecipato a un pranzo al Collegio degli Inglesi, grande istituzione che era stata costituita per formare un clero idoneo alla riconquista cattolica dell'Inghilterra. Allora egli dà un resoconto preciso, si fa anche un po' bello dicendo che lui ha polemizzato con Paul, che era presente al pranzo, 1540, al pranzo, sottolineando gli aspetti positivi dell'anglicanesimo, superiori a certi valori della curia romana. Paul dice che gli risponde che non ha capito niente, lo tratta da illetterato e inesperto di cose religiose, cosa che è sicuramente vera, perché questo non sa nemmeno scrivere. E poi dice, però, quali libri hai letto in Italia? E questo risponde, ma ne ho comprato qualcuno, ma non ho ancora avuto tempo di leggere. Dovrei essere un grande lettore questo. E allora Paul, immaginiamo la scena, è un pranzo al Collegio degli Inglesi, con un mercante, un uomo certo non di cultura, ma anche questa occasione Paul non la lascia scappare e gli dice, guai se leggi le opere del Machiavelli, che ha già avvelenato l'Inghilterra e avvelenerà tutta la cristianità. E disse che avrebbe fatto tutto quanto poteva per poterlo cancellare e mettere fuori dalla memoria degli uomini. Quello che è molto significativo è che non si tratta di una polemica dotta, un discorso fatto a uomini di scienza, ma di un intervento che proprio per la modestia, l'umiltà dell'interlocutore, è un intervento che rivela quasi l'idea fissa. Non perde occasione per condannare, per esempio. E allora adesso abbiamo un quadro abbastanza preciso, abbastanza chiaro. Nel 31 viene pubblicato Il Principe, nel 39 Paul denuncia in uno scritto che non compare, la sua apologia a Carlo V rimase inedita, con questo lungo racconto del suo incontro a Londra con Cromwell, la pericolosità e la colpevolezza di Machiavelli nella corruzione della vecchia Inghilterra cattolica. Nel 42 esce un libro che però era stato fatto nel 36 per Paul. Nel 52 Politico pubblica un libro che era stato scritto per Paul a Trento nel 46. Tutto si sposta, tutto si concentra e c'è questa figura, questa bellissima figura di asceta, di uomo di grande purezza, di grande onestà di intenzioni, questo uomo certamente al di sopra di ogni sospetto, che è Reginald Paul, l'uomo che tra l'altro, ecco perché abbiate l'idea di questo personaggio, ci darò rapidissimamente un aneddoto. Il re d'Inghilterra, per punirlo di essere rimasto cattolico e di aver accettato il cappello rosso cardinalizio, gli fa decapitare il fratello maggiore e poi gli fa decapitare anche la madre, in una maniera crudele, perché la affida a un boia principiante che col primo colpo di scure le taglia una spalla invece del collo. E allora la insegue nel cortile della fortezza per questa vecchia gentildonna che portava il sangue dei Plantageni, vero? E poi manda per ultima crudeltà un messo apposta a Roma per informare il cardinale che sua madre è stata decapitata. È un quadro. E quando riceve questo annuncio, Paul si inginocchia e prega a lungo, poi si volge al messaggero e gli dice: ringrazia il mio re, rimane sempre il suo superiore feudale, per quanto ha fatto, perché sapevo di essere nato figlio della prima gentildonna d'Inghilterra, ma adesso per merito suo sono figlio di una marca, che è una forza d'animo incredibile, un senso della propria missione. Quindi questo è un uomo al di sopra di ogni sospetto, ma comunque si deve a lui se l'attenzione della cristianità, se la pericolosità profonda. E allora, con questo concludo, mi scuso se mi ho tediato troppo, quando un nipote ex sorore del Machiavelli, il Ricci, nel 73 presenta, io lo vidi, purtroppo non fui autorizzato a copiarlo, nell'archivio della Congregazione dell'Indice, un lungo memoriale per togliere dall'indice dei libri proibiti le opere di Machiavelli. In fondo era una gloria toscana, era uno dei pochi nuovi scrittori in volgare fiorentino. A Firenze tenevano molto al recupero letterario di Machiavelli. E sembrava possibile, con una infinita ingenuità, di fare la edizione espurgata di Machiavelli. Cioè come se Machiavelli fosse un autore da cui, cancellando qua e là qualche frase, tutto diventasse accettabile e normale. E c'è questo sforzo, questo incartamento nutrito di appunti, di brani, con proposte di varianti, e naturalmente l'edizione non uscì mai. Machiavelli era ormai stato visto in profondità, come il portatore di un pensiero radicalmente inconciliabile con il cristianesimo, perché l'autonomia dell'umano, il fatto che la sfera dell'uomo sia totalmente indipendente dal soprannaturale, è una tesi che ovviamente il cristiano non può accettare. E questo conflitto reso palese, reso evidente, abbiamo questa figura centrale di protagonista, quest'uomo che dalla prima denuncia fino alla condanna è il rivelatore, il denunciatore della empietà radicale di Maometto. Also, aber ich darf vielleicht ohne Fragen der Titel hat insofern etwas Richtiges, als ja die sogenannte Konzilskommission für den Index der verbotenen Bücher sich mit Machiavelli beschäftigt hat. Und also so eine Korrigator, die gesagt hat, wogegen sie sich mit vollem Recht gewendet haben. Aber man kann, aber das Konzil von Trient hat eben kein Verbot aussprechen können. Der Index, der sogenannte Trienter Index, ist nachher nach Konzil 1664 herausgekommen und war ein hässlicher Index. Er heißt zwar ein Trienter Index, ist aber von Sophius. Nein, aber das ist nur eine marginale, wirklich marginale Glosse, die eigentlich an den Titel Ihres Vortrages anknüpft. Das wirklich interessant ist ja die Entwicklung. Und ich bedauere nur eins, dass heute Herr Lutz nicht mehr da ist, der ja sich mit dem Büchlein von Pohl gegen Machiavelli beschäftigt hat, seiner Zeit hat, aber kennt eine Broschüre darüber herausgegeben. Ich bedauere auch, dass heute ein großer Kenner wie der Skandinavs Pohl nicht da ist, vor allem dank seiner späteren Tätigkeit in Trient, nämlich Professor Tedeschea. Ist heute leider nicht da, hat sich ja sehr viel mit dem Aufenthalt Pohls in England, allerdings unter Maria der Katholik, beschäftigt. Aber das sind nur wirklich nur Randbemerkungen und ich mache einen Vorschlag, dass wir uns jetzt wieder eine Viertelstunde Zeit lassen für eine Pause, dass dann die Diskussion. Frau Werner-Janitsch hat es gesagt, es war auch mein Eindruck. Ich bin außerordentlich dankbar und glücklich, vor allen Dingen für die Periodisierung der verschiedenen Akzente der Tätigkeit der römischen Inquisition im 16. und frühen 17. Jahrhundert, die Sie uns heute gegeben haben, ganz neu waren, die so verblüffend überzeugend klingen. Ich kenne aus den 20er Jahren des 17. Jahrhunderts drei komplette Jahre, in denen der gesamte Briefwechsel vom Heiligen Profetz mit den einzelnen Konfessituren von Rom her erhalten ist. Merkwürdigerweise hat die italienische Forschung sich damit nie befasst, das sind Perdita Baroniana, die einmal kopiert wurden. In der Baroniana. Das ist das ganze Archiv. Nicht das Archiv, aber drei Jahre komplett die gesamte Auslauf des Heiligen Profetz. Diese drei Bände habe ich großenteils mir einmal abgeschrieben und ganz gelesen. Daher hatte ich den Eindruck, ich kann das nur von dieser späteren Seite urteilen, dass das Heilige Offiz nicht so ausschließlich sein Augenmerk auf diese oder jene Materie gerichtet hat, sondern ich hatte den Eindruck, dass die Behörde eigentlich eine Art Kriminalgericht für alle möglichen Delikte ist, die mit Glaubensfragen großenteils wenig oder gar nichts zu tun haben und daher ein Ersatz ist für die normale Kriminalgerichtsbarkeit, wobei ja auch das Verfahren, das Inquisitionsverfahren, das Prozessverfahren doch noch hineinspielen möchte. Meine Frage wäre, ist es sicher, dass man das hier bewusst oder unbewusst tatsächlich so von der Theologie über einen Teil der schönen Literatur und den zweiten Teil der schönen Literatur und die Philosophie bis hin zur Naturwissenschaft geht? Oder ist dies nicht vielmehr der Eindruck, der aus einigen berühmten Prozessen und Purgationen an Editionen entstanden ist? Also es ist etwas anderes, ob ich das historisch Wichtige, was am Ort übrig geblieben ist, nehme, oder ob ich die Behörde fasse, wie sie nun in ihrer täglichen Front, im gesamten Text. Ja. Ha capito? Magari anche per gli altri. Dunque, apprezzando molto quanto è stato detto, ringrazio soprattutto per la periodizzazione espressa circa l'attività dell'Inquisizione in questi anni. Si riferiva poi il professor Röpken a... Non solo gli anni, ma in Italia. Sì, anche agli anni di questa mattina, sì. Si riferiva poi a un complesso di documenti che riflettono tre annate complete degli atti usciti dal Sant'Ufficio, delle lettere uscite dall'ufficio per un corso di interi tre anni che si trovano alla Barberignana. Dalla lettura di questi ha ricavato l'impressione che non si aveva in questo materiale l'occhio su particolari settori determinati, ma che il tribunale si riportava, si sentiva come un tribunale criminale su larga scala, addetto a occuparsi di tutti i delitti più vari che in qualche maniera potessero avere a che fare con questioni della fede. La domanda è se questa successione che è stata accennata appunto settori successivi che si avvicendano uno dopo l'altro passando dalle eresie alla letteratura spacciata eccetera è veramente comprovata come una scelta consapevole dell'ufficio oppure è soltanto una deduzione che si fa a posteriori partendo appunto da alcuni processi più rappresentativi che sono sì, non vorrei proporre una tesi troppo facile e troppo sommaria, però la storia religiosa italiana dimostra che intorno al 1570 l'eresia formale in Italia come movimento, non come singole dissensi o capricci o stravaganze di persone, è finito. C'è il fenomeno molto discusso del cosiddetto nicodemismo, cioè della fede riformata professata di nascosto, ma anche qui la storia ha fatto giustizia, una fede che viene tenuta sotto il moggio è una fede che muore. Chi non può vivere la propria fede, comunicarla, riunirsi in una ecclesia, salverà forse la sua anima, penso che questo sia importante, ma non salva una presenza religiosa di dissenso. E quindi o si emigra o si viene riassorbiti nel conformismo. Un grosso fenomeno di conformismo religioso si manifesta in Italia proprio negli ultimi decenni del Cinquecento, come prodotto triste di questa pericolosità del dissenso. Nel momento in cui dissentire vuol dire rischiare la vita, rischiare il sequestro dei beni, rischiare persecuzioni o almeno una squalificazione sociale. È evidente che molte persone che non hanno grande coraggio, grande decisione nelle proprie convinzioni, rinuncia, ripiega su posizioni di prudenza, dissimulazione e quindi di conformismo. E so benissimo che costruire una periodizzazione di del tipo che io ho proposto richiede uno spoglio dei processi, mettendo da parte quella che può essere quantitativamente anche maggioritaria, la frequenza grandissima di processi assolutamente banali, che vanno dai falsari di bolle apostoliche ai falsari di moneta, che per un complicato meccanismo logico venivano a cadere anche sotto l'Inquisizione, magari perché adulteravano i simboli della curia. Frequentissimi sono i casi di cattiva condotta, soprattutto di religiosi e di religiose, naturalmente, ma questo fa parte della normale patologia, cioè una grande società di persone, tra l'altro attirate alla vita religiosa in quell'epoca anche da motivi di opportunità, giovani che si facevano frati per poter studiare, per esempio, ragazze che venivano chiuse nei conventi dalle famiglie che le condannavano contro la loro volontà, senza nessuna vocazione alla vita monastica. È molto umano, molto comprensibile che molti cedessero e si abbandonassero a abusi e a comportamenti. Alcuni sono di una patologia allucinante, ci sono fenomeni, adesso non posso entrare nei particolari, ma nel 1624 il processo napoletano, cosiddetto di Suor Giulia De Marco, è un processo di patologia sessuale, di aberrazione religiosa, che coinvolge 300 persone in una volta. L'insieme del processo abbraccia 300 persone che in chiesa di notte facevano cose inaudite. Ma tutto questo fa parte, diciamo così, del male della società, dell'aberrazione, della patologia o della psicopatologia che c'è sempre stata. E potremmo discutere se i tempi e le condizioni della società favorivano o non favorivano, ma non è certo per questo interventi che sono del tutto legittimati di un'autorità ecclesiastica nel reprimere così evidenti violazioni di regole che bene o male erano state accettate e sottoscritte da coloro che vivevano questa vita religiosa. Quindi bisogna accantonare, io non conosco, non so se poi mi vorrà dire gli anni in cui si riferisce questa raccolta. Perché esiste l'unico documento pubblico che io conosco che è molto interessante. Nel 1848 Giacomo Manzoni, il grande erudito bibliofilo, eccetera, ruppe, proprio sfondò con la forza la porta dell'archivio dell'Inquisizione, entrò, si guardò e poi portò via un 1602 tutti i documenti che sono attualmente conservati alla biblioteca Casanatense. È un volume di decreta, ma qui troviamo anche qualunque tipo di ricerca statistica è resa difficilissima per il fatto che la struttura dell'archivio dell'Inquisizione era formata da una serie di processi individuali in cui venivano inseriti tutti i documenti relativi a ogni singolo processato o inquisito, dalla prima denuncia, dalla costituzione formale del tribunale, alle lettere scambiate fra l'Inquisizione periferica e l'Inquisizione romana centrale, gli atti degli interrogatori, le difese scritte, gli elenchi dei testimoni, tutto ciò che riguardava il processo era raccolto in ordine di data in questi volumi. Questi volumi sono stati presi da Napoleone I e portati a Parigi. Quando si trattò di recuperarli alla caduta del regime napoleonico nel 1814, purtroppo l'archivista mandato a questo recupero ritenne che non fossero importanti, li vendette, erano molte migliaia, probabilmente 4.000-4.500, li vendette a una fabbrica di cartone che li strappò, dice, in mia presenza, e non è neanche vero, perché per esempio 56 volumi furono comperati da un viaggiatore inglese e si trovano in questo momento a Dublino. Uno, curiosamente, chissà dove è finito, altri dicono che nei negozi di pesce a Parigi avvolgevano i pesci nei fogli, magari autografi, è vero, dei grandi. Uno di questi, e lo si capisce perché riguarda un gruppo di processati francesi, si trova alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Sono processi degli anni 1570 di curiosi mercanti di Marsiglia che andavano a Messina si facevano musulmani, da Messina andavano a Costantinopoli, facevano il loro commercio, tornavano a Messina e si riconvertivano al cattolicesimo. E poi tornavano. Allora questa operazione ripetuta troppo frequentemente aveva dato... Ecco, ma questo per esempio è un processo sul quale nessuno direbbe, noi potremmo dire, ma se c'è la libertà religiosa, ma all'interno di un certo sistema sono processi perfettamente legittimi, nessuno. Quello invece che rimane nelle comunicazioni sono i cosiddetti decreta, che sono verbali, sommari delle singole sedute della congregazione che si riuniva 4 volte alla settimana. Però purtroppo questi decreta hanno questa caratteristica, che danno i nomi delle persone chiamate all'interrogatorio, alla discussione, ma non dicono che cosa è avvenuto o che cosa si è detto. Per cui l'informazione sui contenuti è molto povera, possiamo ricavarla solo se sappiamo chi erano queste persone. E siccome da molte fonti si riesce in qualche modo a ricostruire elenchi di religiosi, storie di ordini, oppure storia della cultura, tutto sommato si riesce ad avere una certa idea di che cosa avvenisse, di quante fossero. Il fatto che i prigionieri a Roma, dove venivano imprigionati non solo i romani, ma anche i più grossi imputati, i più importanti, che venivano tradotti, trasferiti a Roma dalle inquisizioni periferiche quando il processo si rivelava troppo difficile, troppo importante, erano in media 30, 32, 28, massimo 40. Questo ci dà un'idea della frequenza di queste persone. Molto conosciuta, io penso di farne una ricostruzione così proprio per utilità, è la procedura. Noi possiamo sapere poco dei singoli processi, ma conosciamo benissimo la procedura formale. Ci sono trattati a non finire sulle procedure dell'Inquisizione, del vecchio Eimericus, è vero, del 300 fino ai grandi trattati. La nuova edizione di Eimerico fatta dal padre Peña, spagnolo, fine 500. Tutti insomma, i trattati giuridici di procedura ci permettono di seguire, e devo anche dire che nei processi in cui ho potuto ricostruire l'effettivo svolgimento, il rigore formale viene rispettato con estrema cura. I tempi, i giorni delle difese, interrogatori di testimoni, diritto di ricusare testimoni considerati ostili o invalidi, tutto insomma. L'aspetto formale è rispettato con grandissimo rigore. Allora, perché questa perdita? La prima, la fine dell'eresia teologica come fenomeno largo, come fenomeno popolare che circola in Italia, magari nei ceti artigiani o nei ceti colti, ma comunque con gli anni 70 l'eresia in Italia è morta. Ci saranno dei casi isolati, ma sono poi casi singolari, particolari, minori, e qualche volta proprio Giuliano ci nominava l'Inquisizione napoletana, che se non altro attraverso il libro di Amadi è facilmente percorribile, si hanno dei fenomeni di ingrandimento dell'eresia a scopo di dare lavoro e importanza al tribunale. Cioè una frase detta scherzosamente, una bestemmia così, senza intenzioni. In certi stati, parlavamo stamattina della Venezia giurisdizionale, c'è una durissima lotta per vietare all'Inquisizione di intervenire in casi di stregoneria molto diffusi nelle vallate montane del Veneto, popolazione analfabeta, povertà, è vero, abbiamo i casi illustrati anche da Ginsburg recentemente, insomma, lo si vede benissimo, intere vallate che si danno a atti di magia, magari per facilitare la pioggia, per esempio, poveretti, insomma, una casa di ignoranza. E a Venezia si vuole, e soprattutto durissima l'opposizione del Senato all'intervento inquisitorio per la bestemmia, perché si vuole distinguere la bestemmia inquisitoria, cioè la bestemmia che come tale nega qualche dogma, dalla bestemmia che è un puro sfogo volgare, ma uno sfogo dell'animo, cioè chi dice una bestemmia normalmente non ha in mente il contenuto teologico, ma chi imprega contro il nome di Dio non sta in quel momento come se fosse un professore, è vero, di filosofia, negando l'esistenza di Dio, non ci pensa nemmeno. È un grido di esasperazione, ignorante, rozzo, è vero, della propria miseria, ma non ha un contenuto teologale che meriti il tribunale dell'Inquisizione. Quindi questo tentativo di bloccare la tendenza estensiva, da parte ci sono libri, la eresia inquisitoriale come una estensione del concetto di eresia, proprio perché è chiaro che questi tribunali vogliono lavoro. Ci sono carriere, ci sono frati domenicani che attraverso gli impieghi nei tribunali periferici ottengono promozione. Signori, quali sono i grandi personaggi dell'ordine domenicano che hanno la speranza o dei grandi vescovati o addirittura del cardinalato? Grosso modo sono il padre commissario dell'Inquisizione, quindi il capo dell'amministrazione inquisitoriale a Roma, il maestro del Sacro Palazzo, cioè il prelato che sovrintende alla censura dei libri, e il segretario della Congregazione dell'Indice. Non a caso, sarà una coincidenza, ma sono tre personaggi che dirigono strutture di carattere... Ma l'assessore non è domenicano. Che presiedono a, diciamo, strutture repressive, se vogliamo difensive, ma comunque che perseguono la purezza del dogma e i libri attraverso i quali questa purezza può essere contaminata, può essere mostrata. La persecuzione sugli scrittori malefici è evidente anche perché poi non vengono più stampati, quindi il problema si esaurisce da solo. Perché non vengono più stampati? Signore, io non l'ho citato, insomma, ci fu un collega che disse: non è poi vero che l'Inquisizione italiana fosse così severa. Io ho visto delle edizioni di Machiavelli, 1582 Piacenza, 1587 Palermo, quindi persino la tanto deprecata Inquisizione siciliana aveva delle aperture, non sapendo che Piacenza e Palermo vanno lette Londra. E John Wolfe, che dopo aver imparato la tipografia a Firenze nella bottega dei Giunti, va a Londra e stampa Machiavelli. Perché? Ma perché Machiavelli si vende, così come stampa l'Aretino, quindi certo stampando i ragionamenti dell'Aretino non aveva in mente nessuna operazione culturale o etica o di carattere riformatorio, aveva semplicemente in mente la pubblicazione di un libro fortemente pornografico che quindi aveva un largo mercato e veniva ricercato molto. Quindi bisogna in sostanza vedere che il meccanismo lo si vede in azione, ma lo si vede anche negli effetti indotti. A un certo punto, negli anni Ottanta, questi libri non si stampano più. Perché? Perché stampare vuol dire essere processato, vuol dire vedersi sequestrata la mercanzia, i volumi, e bruciati sulla piazza, con un danno economico che noi oggi difficilmente riusciamo a percepire. I libri erano costosissimi. Quindi un tipografo che si vedeva sequestrato anche un solo libro, appena stampato, poteva andare in rovina per solo quel danno economico materiale. Era un investimento costo della carta, immaginate ogni foglio di carta fatto uno per uno, al tino, tirando su così la pasta di carta con una reticella. Insomma, tutto è estremamente costoso, tutto è, e quindi ecco perché non tanto importa vedere quali erano i processi, ma importa vedere come mai certa materia di processi non si produce. Perché prima nessun filosofo è mai perseguitato? Perché forse che un libro come quello di Simone Porzio, Napoli 1556, che nega semplicemente l'immortalità dell'anima, non è uno scherzo, ma nessuno gli dice nulla, perché in fondo è un filosofo, i discorsi dei filosofi sono fatti loro. Pomponazzi fu mai perseguitato, nessuno mai. Potevano guardarlo con un po' di sospetto, considerarlo insomma un empio, ma tutto finiva lì. Il massimo livello di disapprovazione è su una certa censura sociale. Certo, viceversa, come mai negli anni 90 questi vengono messi all'indice sistematicamente tutti, non solo qualcuno? Francesco Patrizzi, questo è un caso. Francesco Patrizzi da Chezzo, che pubblica nel 92 una metafisica della luce, ma a chi da noi? È una metafisica della luce, no? È un libro neutrale, oggi lo leggiamo come più stravagante. Ha naturalmente un grosso pregio storico, che è un libro non aristotelico, cioè è la grande rottura del sistema convenzionale dell'aristotelismo, che finalmente trova degli oppositori che si inventano delle filosofie completamente capricciose. Ma Pacone lo dice con una lucidità straordinaria: non hanno costruito nulla, ma hanno fatto qualcosa di importante, hanno spazzato via le vecchie case dando il terreno libero per incominciare a ricostruire. Anche questo momento distruttivo del passato ha avuto importanza. Ebbene, quest'uomo mite, chiamato a Roma da Clemente VII per una cattedra istituita per lui di filosofia platonica, ma insomma, quale filosofia più spirituale? Ebbene, quando quest'uomo pubblica questo libro, si vede messo all'indice e muore, fa di tutto, scrive, io ho pubblicato anche un suo memoriale, muore di dolore per la vergogna, per il dispiacere di essersi visto iscritto nell'indice dei libri proibiti. E quando si discute con chi sostituirlo su questa carta, cioè l'intervento di Bellarmino, che è veramente anche qui un apologo, un esempio virale, Bellarmino dice al Papa: io non lo sostituirei. Perché? Perché la filosofia platonica è molto più vicina al cristianesimo della filosofia aristotelica. E per questo è pericolosa. Così come sul piano teologico sono molto più pericolosi i riformati dei pagani. Per un cattolico è più pericoloso un luterano o un idolatra? È chiaro che è difficile che un cattolico si converta al feticismo, all'idolatria, mentre è molto più facile che si faccia prendere da qualche istanza riformata. E quindi la cattedra della filosofia platonica viene messa a tacere, non viene rinnovata. Ma insomma, il giovane, che cos'è Campanella, un ragazzo, nel 92, tutte le opere sono messe all'inizio, come mai? Non è stato un solo libro. E poi insomma, la condanna di Brooks, è inutile, insomma, analizzando scientificamente, in base a tutti i documenti, Bruno è stato condannato in gran parte per tesi a contenuto naturalistico, non a contenuto teologico. Aveva detto mille cose non belle, vero, da mettere in dubbio la verginità di Maria alla Trinità, ma sempre in modo quasi direi blasfemo più che teologale. Ma invece i punti su cui si chiude il dibattito, i punti di irrigidimento da parte sua, sono la pluralità dei mondi abitati, sono la unicità dell'anima del mondo, sono i progenitori diversi da Adamo, per cui il genere umano non ha una monogenesi ma invece una plurigenesi. Tutti i punti che riguardano la filosofia, stravagante finché si vuole, che non stiamo certo difendendo le idee di Bruno, insomma, è il discorso. E quando Bellarmino, il discorso finale di Bellarmino nella replica Foscarini, 1615, perché deve essere proibito parlare di eliocentrismo? Perché fermati o sole sulla valle di Gabaon e tu luna non tramontare, dice Giosuè quando deve finire la battaglia contro gli Amalecini, viene buio. E allora gli rispondono: ma è la Sacra Scrittura, mica parlava di fenomeni atmosferici, mica deve spiegare le scienze. Oggi potremmo dire: mica vorremmo trovare nella Sacra Scrittura la ricetta per fabbricare la bomba atomica. E Bellarmino risponde: anche se non è verità di fede ex parte obiecti, cioè per l'argomento di cui tratta, è verità di fede ex parte dicentis. Colui che parla è Dio e Dio non può mentire. Qualunque cosa abbia detto è vera. Che è un'interpretazione largamente estensiva, largamente, diciamo così, onnicomprensiva della verità contenuta nel messaggio. Questo è l'atteggiamento portante, che poi in mezzo ci sia di tutto, questo, però la forzatura per cui i tribunali periferici tendono continuamente ad allargare il loro dominio, la zona in cui si sentono autorizzati a intervenire, mi pare un dato sicuro. Il resto è ordinaria amministrazione. Le monache viziose, quelle ci saranno sempre, poverette, insomma, no, non scandalizzano nessuno, cioè è normale amministrazione, questo avviene in tutte le organizzazioni, così come ci sono i soldati che non rientrano alla sera quando dovrebbero andare a dormire, insomma, fa parte di tutte le organizzazioni umane che qualcuno fallisca, che qualcuno non sia. Invece qui è la ricerca di un'area di intervento sempre maggiore proprio perché l'area propria si è esaurita. Non c'è più nulla da fare. A rigore, alla fine del Cinquecento, l'Inquisizione ha voluto dire noi abbiamo finito. Abbiamo ottenuto lo scopo, volevamo sradicare dall'Italia i fermenti della riforma protestante, lo abbiamo fatto, adesso abbiamo chiuso. Adesso, insomma, per il resto bastavano i normali tribunali diocesani, non vedo perché dovessero essere soggette alla Inquisizione appunto le mancanze di tipo disciplinare del clero. Quindi, certo, se uno fa la statistica di tutto, allora sembra che non cambi nulla, ma se invece si elimina tutta quella che è la parte appunto di ordinaria amministrazione, questa linea, e il proprio Venezia ne dà un indizio molto chiaro. La difesa sempre più dura per sottrarre bestemmie e stregonerie al tribunale inquisitorio non è altro che la risposta a un tentativo inquisitorio di allargare il proprio dominio a territori che istituzionalmente non comprendono. Eines bemerke, wenn ich recht sehe, beginnt diese Ausweitung der Kompetenz der römischen Inquisition, die wir wohl unterscheiden müssen von der Indexkongregation, die ja verschieden war, wurde ja später, wurden die beiden miteinander verbunden. Die Ausweitung der Kompetenzen der römischen Inquisition beginnt meines Wissens mit Paul IV. Paul IV. Hat ja sich immer sehr für die Inquisition interessiert und ihr erweiterte Kompetenzen gegeben, zum Beispiel für die Apostolen und Apostaten, das heißt die Mönche, die ihr Kloster verlassen hatten, Vergehen von neuen Klosterfrauen und so weiter, auch so eigentlich Delikte wie sexuelle Delikte. Damit hat Paul IV. Begonnen und der von ihm als Generalkommissar der Inquisition bestellte Ghislieri, der spätere Pius IV., hat das Amt als Pontifex fortgesetzt. Ne? Und insofern leuchtet mir es ja ein, dass also dann leuchtet mir auch ihre Periodisierung ein, 1570, also 72, stirbt ja Pius der Fünfte. Im Übrigen bin ich nicht etwa dagegen, gegen das, was Sie sagen, dass jede Behörde die Tendenz hat, ihre Tendenzen, ihre Kompetenzen auszuweiten. Sich selbst zu Recht, denn wir sind ja selber Zeuge dieses katastrophalen Vorganges in allen kulturellen, allen westlichen Staaten, nicht, dass die Bürokratien sich also fast kriegsartig ausweiten, vergrößern. Also und davon war auch die Inquisition nicht ausgeschlossen. Das ist das bejaht. Verstehen Sie, da sage ich kein Wort dagegen. Ich wollte nur Ihre Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit der Anwesenden darauf lenken, dass hier Paul IV. Einen unheilvollen Einfluss ausgeübt hat. Für die Ausweitung der Kompetenz. Ja, bitte jetzt antworten Sie das Frage. Ich möchte che questo allargamento di competenze dell'Inquisizione risale ancora a Paolo IV. Del quale è documentata l'operazione di aumento di precise competenze estendendole a altri tipi di delitti che finora non cadevano nella cosa che fu ripresa da Ghislieri come inquisitore generale e poi continuata nelle sue direttive da Paolo. Conferma in sostanza però la periodizzazione che lei ha. Ha detto una parola, molto così, la parola apostata o apostasia, che in origine significava separazione dalla fede, cioè era colui che aveva abbandonato. Nel Cinquecento, nel linguaggio inquisitorio, questo ha dato luogo apostata è un frate che ha lasciato il convento. C'è un frate che abusivamente, magari vivendo come religioso in maniera perfettamente onesta, senza venir meno ai suoi doveri, ma è uscito dal convento abusivamente, è diventato apostata. Cioè c'è un diverso tipo di gravità, lo stesso uso di una parola così grave, così, la bolla contro gli apostati. Nel 500 inizia questo uso, pur già prima. Ma no, ma comunque per i frati, sì. Nel 500 inizia. Io non so prima, cioè, ma conosco la bolla, cioè la bolla contro gli apostati. Allora, la bolla contro gli apostati. Gli apostati dalla religione. Religione nel senso di ordine. Sì, certo, ma c'è appunto questa aggiunta per distinguere l'apostata dalla fede, dall'apostata dalla religione, che è quello che è uscito dalla religione. C'è un'estensione della parola. Sì, certo. Io vorrei chiedere a Firpo se ha fatto, come certamente ha fatto, per fondare questa periodizzazione, un esame approfondito degli indici, a cominciare da quello di Paolo IV del 1559, perché evidentemente è sulla base degli indici anche che l'Inquisizione ha istituito i suoi processi. E a me pare che nell'indice del 1559, adesso non ho Reusch per le mani, non ci sono soltanto scritti che dal punto di vista teologico-dogmatico fossero contro la religione cattolico-romana, ma ci fossero tutta una serie di altri scritti. Per cui chiedo, se la periodizzazione è basata semplicemente sui processi e non tenendo presente anche questo elemento degli indici, è una periodizzazione che andrebbe rivista. E poi direi ancora un altro elemento: i libri non vengono stampati soltanto in Italia, ma vengono stampati fuori d'Italia e vengono portati in Italia, e abbiamo una grossissima importazione. Guarda, tutte le fiere di Francoforte, per esempio, con le balle dei mercanti, eccetera, abbiamo migliaia di libri che entrano clandestinamente in Italia, e abbiamo tutta una serie di processi anche dopo il 70, alla fine del 500, i primi decenni del 600, per la lettura e il tenere libri condannati. Quindi direi che il discorso tra Inquisizione e indice è strettissimamente collegato. E io non vedrei veramente questa cesura dopo il 70, tenendo presenti tutti i processi, che sono stati numerosissimi, che si sono sviluppati proprio sulla linea di questa lettura di libri proibiti. Dunque, sono d'accordo, ma non al 100%. Innanzitutto, una domanda. Maneggiando così questi materiali, non c'è dubbio che l'autorevolezza, la importanza, il prestigio dell'Inquisizione è enormemente superiore a quello dell'indice. Non fosse altro perché l'indice colpisce solo un aspetto molto particolare della cultura del libro stampato, mentre l'Inquisizione colpisce la coscienza, cioè probabilmente tutti. Ma devo anche dire che se c'è una circolazione, come indubbiamente c'è, basta vedere le persone che occupano questi posti, è una circolazione inversa, cioè è l'Inquisizione che segnala all'indice, e questo ho visto documenti, il libro da prendere. E normalmente l'indice esegue quasi con automatismo. Se l'Inquisizione ha segnalato un libro peccaminoso, l'indice lo condanna. Il procedimento inverso è più difficile perché l'entrata in Italia di libri stampati è un altro caso, il serpeggiare clandestino, ma insomma riguarda ancora i lettori italiani, ma non più l'industria culturale italiana. L'Inquisizione preme vincere la prima battaglia, che è quella di impedire che si stampino in Italia, che abbiano libera circolazione in Italia. Smascherare, pensate, il beneficio di Cristo noi oggi lo leggiamo come un libro di intensissima spiritualità. Se c'è un libro cristiano è proprio quello. Eppure loro videro la implicita citazione di Calvino e condannarono questo libro, di cui, come recentemente è stato visto, furono stampate 40.000 copie della prima edizione. Sono tirature che oggi non avrebbero neanche i romanzi. E poi badate che era molto pericoloso, la circolazione di libri stampati a destra esiste, sono le balle che entrano mascherate, rivestite, ma con estreme cautele e con grossissimo rischio. Quindi non dovremmo qui esagerare l'aspetto quantitativo, che io credo tutto sommato modesto. Enrico Cavazza ha recentemente trovato in un soppalco dell'archivio arcivescovile di Udine una specie di unfair, di distanza dei libri sequestrati, dove ci sono tutti i libri ereditari possibili che questi sequestrano e mettevano lì. Ed è una raccoltina deliziosa di preziosità, di rarità, però non sono moltissimi. Cioè, bisogna vedere qui l'aspetto numerico. Poi, intanto erano certo molto frequenti appunto nelle valli friulane, ai valichi alpini, dove era facile la circolazione con Svizzera, con Poschiavo, vero? Cioè, ma per esempio quanti di questi arrivavano a Napoli? Ho paura, pochi, tutto sommato. Pochi relativamente a una vera circolazione culturale. Cioè, sì, più tanto di Livorno. Insomma, non dobbiamo restare perché dopo il fenomeno cambia senso. Cioè, fra gli ultimi decenni del 500 e i primi del 600 questa circolazione c'è, ma è una circolazione estremamente arrischiata, clandestina e quantitativamente certo molto molto limitata. Non è un fenomeno gigantesco. Io vi faccio un esempio caratteristico, un libricino che ho cercato per molti anni di Francesco Pucci, che lui cita presso rete ma che era perduto. Mi ho poi trovato una copia a Zurigo. Ed è un libro che il vescovo di Padova, che lo sequestrò, scrivendo a Roma, dice tanto più insidioso perché in forma piccola. Ma è un libro stampato in Inghilterra di centimetri 5 per 3 e mezzo. Cioè è un libro ovviamente che deve essere nascosto in qualunque piccola tasca, che deve passare in osservazione. E fu importato come? Attraverso un vescovo inglese, un vescovo di Ivi, che aveva venuto a Padova e portato magari 10-20 copie. Quante copie può portare un vescovo anglicano che già un po' sospetto viene a Padova nel 1572? Cioè sono il fatto stesso di questi piccoli formati, tutte, se vediamo la Guicciardiniana, insomma, che è il più grosso fondo di libri ereticali italiani del 500 accessibile, vediamo che i formati sono tutti formati ultra tascabili, vero? Molto, molto più piccoli dei nostri tascabili attuali, quindi sono tipicamente fatti per la circolazione clandestina. Entreranno quei libri culturali, per entrare con Giansegno, per esempio, o libri di questo genere, o Fanespen, come, sono già libri così per giuristi, per magistrati, per teologi, libri di cultura che lasciano. Pensate che cos'è quella meravigliosa raccolta che era la Biblioteca Angelica di Roma, dove veramente si trova tutto ciò che appartiene alla controversia religiosa. Ora, non credo che il cardinale Angelo Rocca fosse un eretico, si documentava, si faceva venire le copie necessarie per studiare, per confutare, era una biblioteca di studio, ecco, una biblioteca di documentazione, ma questo è un altro fenomeno. Poi sono passati gli anni, diciamo, ardenti, dopo appunto i primi 1600, il discorso cambia tono, è tutto un altro problema, insomma. Il gioco della frontiera, ormai la frontiera del cattolicesimo passa in barriera, no? Il problema è quando la frontiera del cattolicesimo sembrava al di sotto delle Alpi, quando si perde il tempo. Quando veramente il senso di angoscia che manda Roma, abbiamo solo più l'Italia e la Spagna. Tutta l'Europa, hanno caduti i regni da tutte le parti. Dopo il problema è questo. Volevo fare un'osservazione due sulla prima parte e poi una domanda sulla seconda. Sulla prima parte condivido la periodizzazione in grosso modo e tanti modi stesso l'aveva denunciata nelle sue ultime cose, direi, in questo senso, purché naturalmente venga presa come tutte le periodizzazioni con un po' di criterio. Per esempio, già negli anni 70 il grosso problema scientifico dell'Università di Bologna è il divieto di importazione di libri scritti da eretici ma che non hanno nulla di eretico perché si riferiscono alle scienze naturali. Qui siamo ancora negli anni 70. La cesura tra la cultura scientifica naturalistica italiana e quella europea comincia proprio prima del 1600, molto tempo prima, proprio con la separazione, cioè i libri che non hanno niente a che fare, sono di classificazione botanica, sono di qualsiasi cosa, però che vengono dall'ambiente erotico, e lì abbiamo tutto questo carteggio, tutto questo di Bologna, cioè il resto di Bologna scrivono, se non ci date il permesso di far venire libri di eretici che non toccano materie teologiche, lo studio di Bologna va in malora. Qui siamo intorno, se non sbaglio, tra 1700 e 1570, 75. Quindi il problema, appunto, di una precedente, ecco, di un precedente attacco, ecco, alle posizioni scientifiche, proprio nel senso che diceva anche Filippo, è un attacco che non è tanto di condanne, quanto così di disincentivo, di ostacolo, anche nella pubblicazione dei libri, perché la censura preventiva, che per esempio non è documentata tanto spesso, è molto pesante. Cioè il respingere sempre certi argomenti. In questo senso io sono d'accordo che gli inquisitori hanno una decisa prevalenza sulla comparazione degli indici. Ecco. Se ricordo una frase di Commendone nel suo discorso sulla Poi Romana, un manoscritto dell'Archivio di Firenze, che credo si possa far risalire agli ultimi anni di Pio V, anche se non è datato, che dice questa frase: i cardinali dell'Inquisizione, è un Giuliano che parla, insomma, ai quali parlo che ora avvenga quello che già avvenne con i censori della Repubblica Romana, che fatti per un ufficio particolare crebbero a tanto che potevano muovere ed alterare tutta la Repubblica. Questa è una frase che mi ha venuto, la sono andato a prendere su perché l'avevo trascritta e mi pare che si adatti abbastanza, insomma, a questo discorso. Cioè non dobbiamo considerare l'Inquisizione come una cosa, uno degli uffici della Romanza. Aveva assunto questa posizione, direi anche politica, insomma, nel senso che qui di alterare tutta la Repubblica, ed è un curiale pubblicare anche un uomo, infatti, non è appunto un uomo ai mani. Ecco, questo quanto riguarda la prima parte. Quanto riguarda la seconda, che è il nostro Machiavelli, qui nel suo libro, il Lutz, che appunto rimpiangiamo non sia qui, mette molto in risalto come in realtà attraverso Machiavelli, fondamentalmente, Paul vuole condannare Thomas Cromwell. Cioè, tutto il suo attacco non è contro, è contro Machiavelli, cioè dice che Machiavelli è diabolico, eccetera. Però tutta la sua, il suo attacco è politicamente contro Enrico VIII e Thomas Cromwell. Credo che questo in qualche modo debba essere sottolineato, perché appunto se qui è ancora più vero questo tipo di derivazione, come è stato dimostrato da Filippo, delle altre fonti di Osorio e di Caterina Polini, da Paul, si comprende anche di più questo tipo di, diciamo, di acrimonia, del tutto, diciamo, anomalo anche nel quadro di questa repressione generale che si ha. Cioè per Machiavelli esistono anche altri tipi di, diciamo così dire, di interventi polemici che sono inseriti in una polemica anti, non dico anti inglese, perché certo poi non era una polemica di inglese, ma contro un certo strumento, una certa strumentalizzazione della forza inglese da parte della monarchia. Ecco, adesso qui è lungo questo capitolo che è tutto dell'apologia e del polo, che si è documentato questo continuo riferimento a Cromwell. Se può, non bisogna però forse andare oltre un certo grado di rovesciamento. È chiaro che la figura esecrata, la figura insopportabile per Paul è Cromwell, ma egli è convinto che Cromwell nasca da una certa cultura, da un certo tipo di valutazione dell'agire umano che risale a Machiavelli. Cioè, è vero, quello che lo ha ferito, quello che ha causato la morte della sua famiglia, la sua rovina, diciamo, dal punto di vista del prestigio mondano, l'abbandono della patria, l'accusa di tradimento, che era quella che lo faceva soffrire più di tutto. Non a caso ci si domanda come mai scrive una apologia a Carlo V, in una polemica. Perché? Perché Carlo V è l'unica autorità possibile per un feudatario inglese accusato di aver mancato di lealtà verso il proprio re. Ci si rivolge all'unico superiore teorico, l'imperatore, come capo supremo della feudalità di tutto il mondo. Quindi questo, Allora, Machiavelli è il maestro di questa persona. Satana è il maestro di Machiavelli. Machiavelli è il maestro di Cromwell e degli altri che agiscono come lui. Insomma, Paul non giunse mai a vedere che, malgrado tutto, l'Inghilterra stava rinnovandosi in forme di Stato moderno, sia pure ricorrendo a questi mezzi brutali e a questi personaggi non raccomandabili. Per lui Cromwell distruggeva il suo mondo, il vecchio mondo dell'aristocrazia britannica, della lealtà cavalleresca, delle buone maniere, se vogliamo, e via di questa classe. L'altra osservazione, che io non conoscevo, mi pare molto significante, e cioè che già la scienza era stata danneggiata, paralizzata dal mancato flusso, però qui mi pare una discriminazione che deve essere fatta, perché quello è un effetto indotto, non è un effetto intenzionale. Nel momento che gli eretici della prima classe, cioè quelli gravi, quelli in cui la Chiesa ha visto una ostilità di fondo al cattolicesimo, vengono condannati negli opera omnia, in quanto ogni loro parola è corruttrice perché viene da loro, perché il corrotto corrompe, perché colui che è malvagio non può che fare male, e allora si è deciso così di non stare neanche più a leggere, perché non c'era neanche, che venivano condannati in blocco. E anche l'idea che potevano dire, non so che voglio, ma in fondo questo è un catalogo di piante, è vero, e quindi tutti sappiamo che anche facendo un catalogo di piante si può introdurre un modo di vedere il mondo, una visione della vita, del rapporto con l'autorità, sia ecclesiastica che secolare, che può essere. Quindi io non sto facendo adesso l'apologia della petizione dei libri. Dico solo che un conto è in quel decennio la persecuzione intenzionale, la lettura analitica dei libri di filosofia per vedere se e in quale modo indiretto, a lunghissimo raggio, potevano portare interferenze con la sfera religiosa, cioè dilatando la sfera della fede a una dimensione smisurata che a un certo punto diventa totale, abbraccia tutto. Tutto è riducibile a doveri imposti dalla fede. L'altro invece è un po' un effetto, come dire, automatico. Avendo deciso di proibire gli autori eretici in quanto peccaminosi, è successo che poi si sono anche chiusi fuori dalle porte dell'Italia i libri di scientifici. Cioè non c'è intenzionalità in questo primo effetto, che può essere stato culturalmente altrettanto nocivo, e forse di più, perché dal punto di vista scientifico erano veramente più importanti quei libri di quanto non lo fossero le opere di Giordano Bruno, che gli scientifici hanno solo delle intuizioni. Certo, ma allora si spiega come alla fine del secolo, scusa se in un istante, la cultura italiana fosse già in qualche modo separata dal contesto europeo. C'era questo che volevo dire. Certo. Cioè, non progressivo. La prima era già stata inserita un certo cuneo che aveva prodotto. C'è un tuo accento molto, molto meritevole di sviluppo quando hai parlato di autocenso. Io feci molti anni fa una relazione che mi divertì molto, intitolata Correzioni di autore coatte. Cioè, noi siamo abituati a vedere i testi autentici e i testi che sono stati cancellati, tagliati con le forbici, proibiti da qualche autorità. Ma un fenomeno di straordinaria importanza è quando un autore si censura da solo, quando sa che avendo scritto certe cose non le potrà pubblicare, quando valuta i rischi che per la sua posizione sociale, economica, la sua carriera, la sua vita potrebbero nascere dal dire quello che ha detto, allora cancella, prima ancora di arrivare davanti al tipografo, prima ancora di sottoporre al giudizio preventivo dei censori, si auto-amputa una mano o un piede per poter circolare, per poter, insomma, uscire alla luce e dire almeno qualche cosa. Io feci molti esempi, sono di quelli straordinariamente suggestivi, di autori che a un certo punto non hanno più potuto dire tutto e si sono da soli auto, ci voleva poco a sapere quali erano i binari su cui si poteva camminare e quelli su cui invece era proibito l'adrasi. E questo fenomeno culturalmente forse è ancora più grave del fenomeno della censura esterna, sia perché alla censura esterna qualche cosa sfugge sempre, per fortuna, qualche cosa riesce sempre a passare, qualche esemplare non è spurgato. Invece questa è un'autocensura che induce negli uomini di cultura una forma di vilità morale, una forma di opportunismo continuo, una forma di paura che governa l'azione e quindi anche il pensiero. La tendenza alla frivolezza, all'accademismo, ai sonetti così per monacazione o per ricorrenze di onomastici, l'arcadia se vogliamo, ha anche questa radice. Cioè le opere dell'ingegno diventano progressivamente opere neutre, che certo non offendono nessuno, che certo non corrono rischi, perché non appena ci si avventura sopra un terreno impegnato nasce il pericolo, nasce il rischio, che è anche conseguenza di questo allargamento del controllo al di là di ogni confine iniziale. Volevo chiedere lo studioso della luce. Sì. Il suo nome. Per assoli. Sì. Io sono un'auditrice. Lo studioso della luce, sì. È, a mio giudizio, è un anticipatore di Galileo, in quanto, non so, questo pericolo della scienza è visto, non so, globalmente, perché vediamo che successivamente nel 600 vediamo la fanciulla ad opere globali di tutto il sapere, che erano pericolose per la religione, in quanto mettevano in dubbio tutto quello che è il credo. Certo. Non so, c'è tutto il movimento protestante calvinista con sede a Francoforte, Heidelberg, Nolanda, tutte le case editrici, anche provenienti dall'Inghilterra. E un movimento anche che dall'Inghilterra attraverso la Germania arrivava a Venezia. Venezia sappiamo che è sempre stata la più ostile al papato, non so, abbiamo episodio di Chartres, che combatteva la scienza perché era vista in generale, hanno compreso che capovolgeva il mondo, insomma, che rovesciava tutto quello che era il credo medievale, la teologia. Questo è intuito, non so, abbiamo gli esempi di Giordano Bruno, Campanella, ma anche, non so, studi di ingegneria come Heidelberg che sono stati distrutti poi dalla guerra dei 30 anni. Quindi, io vorrei che una discussione. Sì, domanda al relatore. Sì, una lotta. La domanda, avere domanda al relatore. Sì, se questo studio della luce è visto un anticipo di Galileo, dello studio dell'occhiale. No, Galileo è nella direzione della scienza moderna, cioè sperimentale, e studia l'ottica, insomma, parte da Vitellio, il polacco, e arriva, insomma, adesso. Sì, invece sì. Questa è una metafisica della luce, cioè la luce come creatrice degli enti, è vero? È una specie, semmai, di emanatismo plotiniano, è un discorso puramente filosofico, astratto. D'altra parte, il filone da cui viene il Patrizi, il filosofo, è un filone zoroastro, ermeno trismegisto, di mistica, magismo e cabala orientale, quindi è un filone anzi pochissimo scientifico sotto questo riguardo, però ha il grande merito di non essere aristotelico, cioè di proporre una libertà di concezioni senza essere vincolato a una struttura del sapere scolastica convenzionale che era diventata obbligatoria. Cioè la grande sintesi tomistica fra aristotelismo e cristianesimo sembrava la garanzia, pur essendo evidenti gli elementi tipicamente non cristiani dell'aristotelismo, dal mondo eterno, è vero, alla mortalità dell'anima, e via di questo passo. Sì, ma è questo filone di Ermeto Trismegisto che poi porta alla fondazione della società inglese di scienze, e non so, che prepara tutto il pensiero oltre, al di là delle Alpi, che prova la scienza. Perciò, non so, io chiedo se hai visto in questo filone. A me pare di no, mi pare anzi addirittura contraddittorio, perché sono due direzioni, l'una tutta fattuale, sperimentale, analitica, e l'altra è fatta di visioni personali, di intuizioni globali del cosmo, cioè un fondo, guarda, c'è un ritaglio di carta, guardate, così come due francobolli di Galileo, che autografo, che dice: mi è più caro accertare un vero, benché di cosa leggera, che discutere tutto l'anno dei grandi problemi. Accertare un vero, benché di cosa leggera, è la scienza nuova. L'altra è la scienza antica, la scienza del tutto, la speranza e l'illusione di poter abbracciare il mondo intero in una forma. Quindi siamo su due direzioni completamente antitetiche dello spirito umano. Adesso, Filippo, ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen, die mit dem Thema zusammenhängt und mich schon seit einem Jahr hier und da habe ich gesucht. Ich weiß keine Antwort, vielleicht wissen Sie eine Antwort. Die römische Inquisition war zuständig für die gesamte katholische Kirche. Sie haben nur von der Wirkung in Bezug auf Italien gesprochen. Es gab etwa Spanien, das eine eigene Inquisition hatte, die der römischen nicht unterstand, auf andere Regeln, aber etwa in den Niederlanden, in den 50er, 60er Jahren, wurde die Niederlande unterstand nicht der spanischen, sondern der römischen Inquisition. Meine Frage: Haben Sie bei Ihren Studien über das Ausmaß, in dem die römische Inquisition außerhalb Italiens wirksam geworden ist, etwas gefunden? Das ist so schwierig von den Quellen her, weil wir an die römischen Akten nicht heran können und weil etwa in Deutschland von der Kölner Inquisition alle Akten der französischen Revolution verloren gegangen sind. Wie war dort das Verhältnis? Qual è l'ambito dell'Inquisizione oltre l'Italia? Oltre il caso Spagna, ovviamente. La spagnola è autonoma, ma in generale il rapporto è un rapporto elastico, cioè l'Inquisizione è locale. Ci sono circoscrizioni territoriali su cui esiste un tribunale inquisitore costituito, nominato spesso da Roma, ma comunque che ha. Però i poteri sono di questo genere. La regola dice: per i processi lievi usque ad sententiam inclusive, per i processi gravi usque ad sententiam exclusive, cioè il tribunale locale conduce tutto il processo ma non può formulare la sentenza, deve mandare gli atti a Roma e aspettare che sia il tribunale romano a stabilire quale deve essere la conclusione. Nei processi poi gravissimi il tribunale romano chiede la estradizione, che naturalmente ci vuole la persona, che naturalmente questo è limitato al rapporto politico, quindi non è più un rapporto diretto. Cioè il fare la sentenza a Roma, come fare la sentenza nel luogo dove si svolge il processo, dipende dalle decisioni dell'Inquisizione. Il far portare a Roma l'imputato non dipende più. Difatti Giordano Bruno viene estradato da Venezia dopo lunghissima resistenza dell'autorità veneta, solo perché si verifica una situazione di opportunità e si fa uno scambio fra una grossa concessione economica del monastero di Nervesa e questo prigioniero che in fondo non era veneziano, era un frate, quindi interessa loro. Ma proprio per le resistenze provocate dal caso di Bruno, pochi mesi dopo, quando si tratta di trasferire a Roma Tommaso Tamparella, lo manderanno di nascosto, con la cosa inaudita, senza che l'autorità veneziana lo sappia, perché questi già si aspettavano una risposta negativa. Cioè si crea quindi un rapporto molto elastico, però la mia impressione, purtroppo i cartecci con le inquisizioni periferiche sono quasi tutti distrutti, basta messo. Però si ha l'impressione che seguissero ogni processo per lettera dappertutto. È probabile naturalmente che quanto più questi erano lontani, tanto più l'intervento fosse più rilassato, più leggero, cioè fosse maggiore l'autonomia locale. Probabilmente in Germania, noi parlavamo di Polonia, buonamente qui si svolgeva quasi, però i grandi processi, pensiamo al caso di Giansegno, pensiamo al caso di Molina, cioè i processi chiaramente incidevano sulle concezioni importanti del cristianesimo, come il quietismo, è vero, come il giansenismo, questi venivano avvocati. Baio. Aber dann waren es die Nunzi, die das gemeldet haben, nicht die Inquisition. Das ist nämlich das Erstaunliche aus den Nunziatur-Korrespondenzen, die wir ja relativ dicht haben. Da können wir das sehen, aber es ist erstaunlicherweise, ich kann das für die Kölner Nunziatur in den 30er, 40er und frühen 50er Jahren des 17. Jahrhunderts nachweisen. Das ist nicht der, der Dominikaner Inquisitor, sondern es ist der Nuntius, der dann mit dem Heiligen Offiz korrespondiert, obgleich er selbst nicht weiß, ob der Brief vom Heiligen Offiz oder vom Staatssekretariat kommt. Ich kann nachweisen, dass er das selbst nicht wusste. Sì, però anche qui è vero che funzionava il Nunzio, anche a Venezia il tribunale era costituito dal Nunzio, però nel carteggio del Nunzio si utilizzava lo strumento di re postale, non dimentichiamo di mandare una lettera, allora era un grosso problema, molto costoso e impiegava mesi magari per arrivarla. Quindi che la disposizione, la decisione del Tribunale Inquisitore fosse compresa nel carteggio del Nunzio, va bene, ma la decisione come scelta veniva presa dall'Inquisizione. Allora, lo stesso, è inserita nel dispaccio per il Nunzio, ma la deliberazione concettuale parte sempre dalla congregazione cardinalizia, cioè dai 7-8 cardinali inquisitori, tra l'altro era presente al giovedì sempre anche il Papa. Quindi Feria Quinta c'è sempre Papa presente, quindi questo dà un'autorevolezza. Ci sono altre domande? Schiera. Io sarei lieto se questo tipo sviluppasse un momento che mi sembra molto interessante nella sua relazione. Cioè quello in cui appunto rimproverava il fondo Apollo di non rendersi conto delle profonde innovazioni che pur in modo rivoluzionario, se vogliamo dire così, l'Inghilterra stava vivendo come Stato, in funzione di una rifondazione costituzionale negli stessi anni e degli stessi uomini che lo condannavano. Cioè vorrei dire questo, in che modo invece si possa coniugare la condanna così esplicita, dura, perentoria del tizio di Machiavelli come massima espressione della ragione di Stato, allora non si sapeva, insomma non lo sappiamo, con invece un atteggiamento che secondo me si è liberato, ma si è andato liberando già nell'area del Concilio, come hanno insegnato i redattori di questo convegno, molto più accomodante, insomma, nei confronti della ragione di Stato vera, quella tecnica, quella cioè in cui gli Stati davvero si andavano allora servendo per costruirsi. Cioè, mi pare che la stessa situazione di Alberico, per esempio, il Romano Prismo, ha dimostrato come tutto sommato il gran proverone sollevato su questo problema si è concluso in una sostanziale accettazione, proposta di divisione di sfere tra religione e politica, linea sulla quale, a mio avviso, la Chiesa si è poi attestata abbastanza, in modo abbastanza durevole nel post-concilio. Così come mi sembra abbastanza dimostrato dalle relazioni sui rapporti fra gli stati francese e spagnolo con il Concilio, che i rispettivi monarchi francese e spagnolo hanno mantenuto sempre nel confronto del Concilio un atteggiamento dettato anche da preoccupazioni pesantemente interne, di politica interna, quindi di ragione di Stato. Così come anche Prodi ha dimostrato molto bene nella sua relazione che la stessa vicenda secolare della Chiesa in quegli anni è segnata dalla costruzione di uno Stato che fallisce, magari non riesce poi a tradurre fino in fondo per la sua trasformazione appunto in Stato secolare, ma anch'essa secondo me orientata nella direzione di una riorganizzazione interna su base politica, quindi sempre secondo me nell'ordine della ragione di Stato. Certo, non è più la ragione di Stato che anche avremo, forse Machiavelli non è un elemento della ragione di Stato, la ragione di Stato viene dopo, la ragione di Stato è la riflessione teorica compiuta, quindi formalizzata, quindi lucida, quindi fredda, quindi anche meno attaccabile e in fondo meno pericolosa del pensiero di Machiavelli. Ecco, io ho l'impressione che forse, allora, per concludere, ma è proprio il quarto perché non intendo di queste cose qui, forse abbia ragione Luz, cioè che davvero nella condanna di Porfa, direi, più di ogni altro, di Machiavelli, giochi pesantemente una drammatizzazione biografica che il Polo compie nei confronti, direi proprio, del suo nemico, del suo persecutore, che è Cromwell. Scusi, ma si può ripetere la domanda? No? Allora. Almeno non l'abbiamo capito. Ah, allora l'ho detto io forse. Dunque, la prima domanda di Schiera è questa. Paul non si rende conto che al di là della disinvoltura di Cromwell sta nascendo in Inghilterra lo Stato moderno, e forse attribuisce a Machiavelli quelle che sono le sventure, le disgrazie della sua vita privata, conseguenza di questa trasformazione dell'Inghilterra. E su questo primo punto, certo, già prima avevo cercato di... è vero, ma in una forma un po' sfumata. La verità è che tutti gli ideali di Paul sono ideali medievali e feudali. È un uomo fortemente arretrato rispetto al suo tempo. Il suo tempo è il tempo della borghesia nascente, il tempo in cui Erasmo fa l'edizione critica del Vangelo, che è il tipico atto borghese, in cui Machiavelli scrive Il Principe, in cui Moro scrive L'Utopia, in cui Erasmo apre la istituzione Principis Christiani dicendo l'usanza dei monarchi è una barbara usanza orientale, non possiamo farne a meno. L'unico modo è prendere i loro figli appena nati, il primo giorno, toglierli e educarli noi. E noi chi sono? I dotti, cioè i borghesi. Lui, figlio illegittimo, lui uomo senza nobiltà di sicuro, non aveva nemmeno un padre. Certo, l'epoca dei grandi bastardi, il Leonardo, Boccaccio, Machiavelli ed Erasmo. L'epoca in cui non contano più gli antenati, conta l'ingegno, conta quello che si è, non quello che si era. E allora questi valori sono feriti da Machiavelli, al di là della disgrazia personale, che può giocare, c'è un gioco su ciascuno di noi, ma Paul è un uomo di tale intensità, di spiritualità, di dedizione a una missione di fronte alla quale esitò lunghissimamente. C'è una sua frase stupenda, sapete, che rimase esitante fino al 1635. Solo il supplizio, a distanza di un mese, di Thomas More e di John Fisher, disse: ho visto finalmente la mia strada segnata con lettere di sangue. Cioè, con il sovrano che ha fatto uccidere il più santo vescovo, 81enne, e il più grande dotto d'Inghilterra, Tommaso More, poi santificato, a questo punto non c'è più nessuna possibilità di incontro, chi ha fatto questo deve essere cancellato dal consorzio degli uomini civili. Quindi adesso la seconda domanda di Schiera è più complicata, perché mi pare che Schiera usi il termine ragione di Stato in un senso collegato con la nascita dello Stato moderno e della sua autonomia, ma in senso invece tecnico, da me professionista della ragione di Stato, significa un'altra cosa. La ragione di Stato è il dibattito teorico fra questa istanza, lo Stato moderno che nasce con le sue esigenze interne di struttura, di organizzazione, di autonomia rispetto ai poteri esterni, e la legge morale, cioè in parola della legge cristiana. Esiste possibilità di conciliazione? La risposta noi lo sappiamo, è no. Insomma, la cultura italiana, che era già molto stanca, era già in una fase di declino, si è esaurita. Sono decine i trattati che vengono scritti in questi decenni, e qualcuno anzi è uscito tardi con datazioni tipografiche che falsificano la reale collocazione del dibattito vero, in cui si cerca di trovare una conciliazione fra la etica cristiana, che la Controriforma ha restaurata, che non si può più accantonare come aveva fatto Machiavelli. Machiavelli aveva detto: se volete guadagnarvi il paradiso siate cristiani, ma se volete conservarvi il trono non potete essere cristiani. Il cristiano non è congiungibile con il potere, perché viene il momento in cui il comportamento imposto dalla legge cristiana ti rende inerme, ti rende nudo, senza difesa di fronte a coloro che in maniera spregiudicata vogliono il potere, e quindi te lo prendono, te lo tolgono. Quindi all'interno di questo discorso, il dibattito sulla ragione di Stato è un dibattito che noi sappiamo che non può avere nessun esito, perché non si può conciliare ciò che è inconciliabile. È impossibile conciliare l'etica politica pura, cioè la volontà di potenza, Kratos, la chiama una bella parola greca, Maidiche, è vero, che è in contrasto con ethos, che è in contrasto con il principio morale. Il potere e la moralità sono necessariamente separati, spesso addirittura incontrati. Quindi questo dibattito snervante, sottilissimo, le finezze che sono state escogitate e sono poi finezze del tipo casuistico, cioè si prende il male, potere, storia, il male, lo si divide in due. Questa metà è male, non si discute, questa è male. L'altra metà però potrebbe forse essere rimessa in discussione. Poi si prende questa metà, la si divide a sua volta in due parti e alla fine rimane qualche cosa. Difatti la soluzione più ingegnosa fu di distinguere l'etica privata del principe, che indiscutibilmente deve adeguarsi all'etica cristiana, da quella invece che è l'etica dello Stato. Infatti la ragione di Stato è una razza. Ragione qui non è la ragione raziocinante, è la istanza della necessità, il principio guida dello Stato come autonomo da quello delle persone che lo governano. Gli Stati hanno le loro esigenze, hanno i loro bisogni. È inutile che gli uomini si illudano di poterli fermare, di poterli paralizzare, di poterli distorcere. Gli stati vivono di vita propria, che è un'affermazione dal punto di vista cristiano pericolosissima, come è facile vedere, perché a questo punto si giustifica tutto. Il sovrano dice, ma io vado sempre a messa, ma il mio stato aveva bisogno di fare la guerra, e quindi abbiamo fatto la guerra. È un modo di dissociare la responsabilità. A Botero, che è il padre, il primo che intitolò un trattato della ragione di Stato, 1589, da quell'arguto scrittore molto fine che era Traiano Boccalini, fu imputato e aveva scritto un trattato della ragione di Stato che dedica a questo problema solo la prima pagina, perché dopo è un trattato di politica. E a un certo punto in questo trattato che vuole moralizzare, Botero è stato gesuita per 20 anni, è un religioso integerrimo, un uomo di grande pietà, indubbiamente sacerdote che non ha mai dato luogo minima censura, ma in questo trattato a un certo punto dice, ma in fin dei conti, ragione di Stato altro non è che ragione di interesse. Cioè, ognuno fa quello che gli conviene. È una conclusione molto triste, noi identificare la ragione, la ratio che governa uno Stato è la ragione dei suoi interessi. E difatti, Schiera mi insegna, la prima età del Seicento si popola da Rohan in avanti des intérêts du prince d'Europe. Quali sono gli interessi? I singoli stati, la Francia, cosa vuole? La Francia vuole questo, vuole quello, vuole estendersi, vuole conquistare la Navarra, vuole arrivare alla frontiera del Reno, perché quello è l'interesse della Francia. Qual è l'interesse dell'Inghilterra? L'interesse dell'Inghilterra sarà un altro. Il conflitto di questi interessi è la storia. Ma si accetta il principio che ognuno di questi abbia una spinta, un vitalismo interno, che con la legge morale non ha più nessun rapporto. Non interessa. Cioè è il trionfo di Machiavelli dopo 40 anni di discussioni fatte per rimettere Machiavelli sotto l'impero della legge morale. Perché noi adesso lo vediamo, è troppo evidente, è troppo facile ragionare dopo secoli, quando tutti, diciamo, tous les gestes sont faits, no, quando tutto è già avvenuto, quando si sa come va a finire. È già tutto risolto. Noi adesso sappiamo che conciliare l'interesse con la morale è chiaramente impossibile, perché la morale interviene proprio quando per interesse vorremmo fare certe cose, ma la morale ci dice no, non devi farlo, non puoi farlo, è proibito farlo, no? Quindi ragione di Stato come istanza dello Stato moderno è in un certo senso l'esito finale, ma il disastro, il fallimento finale del dibattito sulla ragione di Stato, che era invece un dibattito sul rapporto etica e politica, cioè il problema sollevato da Machiavelli. E per questo dicevo, quando cominciamo, che Machiavelli soppresso, condannato, bruciato sulle piazze, non più stampato, compare ogni volta che la politica agisce, è più vivo che mai. È sempre più vivo, perché lui aveva visto che gli stati hanno una ragione interna che è per sua natura amorale o premorale, ma non aveva mai condannato la morale come tale. No, se posso aggiungere solo una parola che non voglio certamente. Proprio in base a quello che hai detto, però, è estremamente interessante distinguere la condanna di Machiavelli da parte della Riforma Cattolica, uso queste parole per risparmiare da quella presa a controllo. Perché secondo me se si fa tutto con il primo fascio si rischia di capire poco. Ma che venga condannato non dall'indice di Paolo IV, non dalla controriforma, ma da Paolo, che possiamo dire dal maggiore esponente o uno dei maggiori esponenti del Pontefice. Perché? Perché l'accusa che lui fa a Enrico VIII è quella di aver strumentalizzato la religione e di avere quindi fatto un instrumentum regni della religione. E quindi tutta la tesi, per quelli che capiscono così dalla lettura, guardate, insomma, in fondo, anche quando si scade con Machiavelli, si dice, beh, perché? Perché Machiavelli è stato quello che ha teorizzato tra tante cose, ma soprattutto queste, diabolico di queste. Cioè gli dici che attraverso questo che poi il principe inganna i sudditi e li spoglia, tanto vulpes in bullos, ut vos lassen, dissi per perdere, eccetera, avanti questo genere. Cioè, la religione fatta strumento di Stato è vista dalla Riforma Cattolica come appunto un pericolo dei tempi moderni. Da questo punto di vista, appunto, risulta coerente, in modo paradossale, ma abbastanza significativo, che poi la controriforma scopre Machiavelli, non può più portarlo in prima persona, lo camuffa, tutto quello che vuole. Ma Machiavelli, attraverso la ragione di Stato, diventa l'espressione della controriforma, ma proprio contro la stessa condanna che di Machiavelli aveva fatto la Riforma Cattolica. Questo mi pare così uno spunto, forse paradossale, forse per discuterne, ecco, ma che si può derivare da quello che hai detto. Quindi, io porrei l'accento proprio su questa scansione dei tempi attraverso il Cinquecento, cercando appunto anche di distinguere quello che è caratteristico di questo tipo, ecco, di attacco di condanna, e quello che invece è, secondo me, appunto la persecuzione attraverso la controriforma degli indici dei microfobiti, che tocca anche Machiavelli. Ma fondamentalmente Machiavelli nella seconda metà del Cinquecento è presente per rinascere, sia pure sotto farsi esporre. C'è la svolta, secondo me, è la presenza di Polifi a Trento nel 46. È il momento che differenzia l'aspetto riforma cattolica, cioè Paolo, la esecrazione morale per un uomo che insegna la menzogna, che adopera la religione come strumento regno, come hai detto, e dall'altra parte la soppressione. Paul non dice mai che Machiavelli deve essere soppresso, dice solo Machiavelli deve essere morto. Invece Politi dice che bisogna già, è il decreto del 49, che non lo abbiamo, ma bisogna prevedere questo. Giambattista Busini è un uomo estremamente rigoroso. Non solo, ma sta scrivendo lettere per documentare lo storico, perché sono lettere a Benedetto Varchi che sta scrivendo la storia di Firenze e chiede a questo testimone oculare dell'assedio, come era stato Busini, delle notizie da utilizzare, tra l'altro adesso il tempo ci manca, sarebbe molto interessante vedere come la lettera di Busini è passata nella storia di Varchi, attenuata, addolcita, senza le punte di odio che Busini ha per Machiavelli, ma per ragioni politiche. Perché Machiavelli era stato un servitore dei Medici e lui invece era un repubblicano fino all'ultimo sacrificio, era rimasto così a difendere la sua città. Quindi la animosità di Busini, l'astiosità verso Machiavelli è spiegata in questo modo. Però la condanna del 49, ripeto, i termini sono molto duri, quindi io ho scritto, quindi sono termini di soppressione, vero? Da parte della curia. Qui, vedi, qui, scrive da loro. Qui, a chi di preciso? Non lo si sa, dice qui, sono qui, evidentemente l'autorità. Qui sono state vietate e proibite a vendersi tutte le opere del nostro Machiavello e vogliono fare una scomunica a chi le tiene in casa. Io credo che sia molto bene la decisione di chi può essere. Deve essere la definizione. È probabile, che non lo dice. Non, perché una cosa che non lo so, questo era il governatore l'atto di Roma. La scomunica. No, la minaccia. C'è una voce. Sì, ma dico, questo plurale non è così, ma dell'autorità. Autorità. autorità, come comunque so, no, possiamo fare tante ipotesi. Allora, diciamo di aprire questa discussione, da ogni tappa magari il Hendrik auf das letzte Lied, non vuol dire che questo Consiglio von Trient nur auf sehr indirekte Weise in die Condanna di Machiavelli eintritt, insofern als Aurelius Paterinus zuliebe auch in den Chor der Machiavelli-Gegner einfällt. Aber wie gesagt, das Konzil von Trient selbst hat den Machiavelli nicht verurteilt, auch nicht in der dritten Periode, wo ja das Konzil eine Kommission für die Reform des Index-Balls des Vierten gebildet hatte und wo man also wohl eine Korrektur des Prinzipien ins Auge fasste, aber das ist von einer Condanna di Machiavelli da parte del Concilio di Trento non c'è niente. Ma è una estensione, cioè politico, scrive un documento informativo per il cardinale per quanto riguarda la traduzione della Bibbia, che è l'argomento discusso a Trento. Poi aggiunge, secondo paragrafo, proibizione degli autori pagani immorali. Trento non si è occupato certo di proibire Ovidio, sarebbe stato anche poco serio. Terzo paragrafo, ma soprattutto bisogna proibire Machiavelli. È chiaro che il terzo è un modo di cercare il favore e il compiacimento del cardinale, cioè di dire al cardinale quello che forse aspettava che gli dicessero. Insomma, è quasi un atto cortigiano, se vogliamo. Però sta di fatto che dopo la conseguenza viene tradotta a Roma in la mia die abschließende Relation von Professor Röpke, europäische Außenpolitik nach dem Trienter Konzil, annehmen.